Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Giuseppe. Ascolta, quando ho visto il video ho goduto tantissimo, proprio bellissimo. I Rom sono dei topi perché vivono nell'immondizia, sono sporchi. Zingara, che cazzo vuoi? Io so che cosa fai. Dovremmo termovalorizzarli tutti, creare calore per uso domestico. Ma quanto puzzerai? Io avrei limitato l'intervento di certi coglioni. Cioè, ma una persona intelligente deve fare un ragionamento del genere e dire dobbiamo prendere e termovalorizzare. Ancora qui è colpa dei buonisti. Giuseppe, io difendo, io e un altro collega difenderemo, se lo vogliono, quei ragazzi gratis. Perché non le hanno rinchiuse con dei lucchetti o con delle catene. Hanno impedito loro di uscire. Chi è che sta ridendo? Parenzo sta ridendo. Chi è che sta ridendo? Sto scemi in merda. Basta sentire la trasmissione anche di Radio 24, il peggio dell'animo umano. Eccola la mia città, la gente ormai non sa come arrivare a fine mese, sono tutti sulle spese, la gente è un... Ci sei? Ci che sei? Fogna, sei che pronto? Fogna, che fogna. Fogna! È una parte d'Italia! Una parte d'Italia, ti avverto! Una fogna. Ti avverto, ragazzi! Sono molto depresso, guarda. No, che depresso? Sono depresso, possiamo dire che sono depresso. Sono depresso. Allora, perché sei depresso? Non ho capito. Sono depresso. Ma perché? Quando senti certi messaggi sei depresso? Quando senti certe voci? Quando senti una parte d'Italia sono che depresso, si esprime? Non posso dire che sono depresso un giorno, sono depresso. No, oggi sono non depresso. Si può. E la situazione del paese è barbara, la situazione è proprio, ma come fa uno a a chiamare l'800 24 00 24, sì, e sì, dire sì. queste cose queste porcherie, queste robe inumane, ma come si fa? Allora vi avverto, ragazzi, che mi sono arrivati nel fine settimana dei messaggi sulla vicenda peggio Zingari peggio di quelli che hai fatto sentire, ma non ho capito. Decisamente peggio. Dunque, no, io non riesco a immaginare cosa può essere peggio di quello che hai fatto sentire, non riesco a immaginare davvero. Ma a te scandalizza o no? Ma per capire, guarda, sai, io sono arrivato, ovviamente non direi mai cose del genere. Sei sono vaccinato arrivato, contro, sì, tutto. Sono arrivato tu al cinismo più assoluto. Vabbè, questo e capisco fa che fa schifo, ma insomma. E capisco che la questione Rom no, ma solleva l'odio più infernale. Ma a sentire queste cose ti fa orrore o no? Un minimo. Guarda che non perdi ascolto se dici che ti fa schifo, no, anche a te sta roba. Mi fa schifo, sai, secondo me poi tra quello che uno dice, tra quello che, ma che come c'entra? Si esprime la realtà. Ma anche poi solo pensarle queste cose. Allora, sulla vicenda del DJ Fabo, di cui tutta l'Italia si, ecco, occupa, questo è sull'eutanasia, la Svizzera, sì, la morte, sì, con lo la Stato, lo, sì, Stato, ecco, italiano è partito, ha partito, no, non va, è partito, è partito, lo va. Stato italiano, ecco, ha, ecco, sequestrato il corpo del DJ per anni, ha sequestrato quel corpo, cioè quest'uomo, sì, che ha manifestato la volontà di morire è, sì, stato sottoposto a un sequestro di Stato, sequestro di Stato. Poi ci sono gli Adinolfi, i Minchioni, i politici di destra e di sinistra, i leghisti, che oggi Salvini che dice no, ma grande rispetto, fai buon viaggio DJ, quando in Parlamento ha inondato di migliaia di emendamenti per far sì che non ci sia la libertà di decidere, e oggi quell'ipocrita di Salvini dice no, ma fai buon viaggio DJ, l'uomo deve decidere se morire o no. Oh, ma chi pensi di pigliare per il culo? Non ti lavi mai, Zingari. Allora, Mario Adinolfi, ma cos'è sta canzone dei Zingari? Togli sta roba, è che stupenda. È una porcheria. Mario Adinolfi, chi ha fatto sta schifezza? Toglila. Mario Adinolfi, DJ Fabo è morto. Ora la nostra domanda è semplice: speculando su questa tragedia, che legge volete? Volete il sistema svizzero che sopprime un disabile a listino prezzi? Iniezione di Pentobarbital, pratiche funerali, 18.000 euro tutto incluso. Volete sfruttare l'onda emotiva per ottenere questa vergogna? Ma quale onda emotiva? E qui la conclusione: Hitler almeno i disabili li eliminava gratis. Che schifo, veramente. Cioè, Adinolfi sostiene che il metodo svizzero, siccome è a pagamento, è più nocivo, più pernicioso, più deleterio, più distruttivo, dite quello che vi pare, di Hitler. Cioè, cappato è peggio di Hitler, in sostanza, perché aiuta, contribuisce a questa morte da parte del DJ Fabio. Ma sentiamola di Adinolfi, che non pronuncia la parola Hitler, questo lo scriverà, ma ha parlato, e sarà anche qui, credo, più avanti, nel corso della serata, Parenzo, nel corso di questa lunghissima serata, che durerà fino alle 23. No. Fino alle 23, sì, eccezionalmente fino alle 23. Ma vado via prima, me ne frega niente, sono pagato fino alle 21, 20 e 50. Varate norme ignobili contro l'uomo. Contro l'uomo, questo stiamo facendo. E possono strumentalizzare tutto il dolore del mondo, ma contro la nostra fede non passeranno. Se ne abbiamo. Non faremo massacrare i nostri padri, i nostri nonni, i nostri figli deboli. Però io devo dire una cosa a mio amico Adinolf. Il problema è un altro. Non è che massacrano qualcuno. Su, se vuoi te fai ammazzare. Non è che ammazzeranno qualcuno, perché lui dice è un sistema che porterà a risparmio. Siccome bisogna risparmiare, allora è più facile uccidere con una siringa piuttosto che curare, dice, no? Perché hanno introdotto una follia che davanti al malato e anche solo al disagiato psichico, perché ormai sono arrivati a questo, la soluzione non è curare, perché curare è molto costoso e molto faticoso, ma sopprimere, perché sopprimere è poco costoso. Allora io te lo dico qua, caro Parenzo, voglio che alle 18.41, alle 18.41 e 53 secondi del 27 febbraio 2017, e questa mia volontà sia registrata. Sì. Si è registrata e rimanga agli atti, e rimanga agli atti, e anche quella di Parenzo. Allora, noi sottoscritti. Sì, no, io sottoscritto, se no non vale quella collettiva. Cioè, questa cosa qui alle 18.41 del 27 febbraio deve rimanere scritta. Io, se fossi nella stessa condizione in cui si è trovato quel signore lì, perché ormai è morto, voglio essere soppresso allo stesso modo. Se anch'io ho i soldi, se ho qualche risparmio, se non arriverò diseredato, diciamo, in quella situazione, voglio essere portato in Svizzera da chi è più vicino a me, naturalmente. Anch'io. Io non so, probabilmente poche persone saranno vicine a me. Comunque quei pochi che rimarranno porteranno in Svizzera. Io sottoscritto, nella pienezza delle mie facoltà di intendere e volere, dispongo quanto segue: qualora fossi affetto da una malattia allo stato terminale, da una malattia di una tensione traumatica cerebrale invalidante e irreversibile, da una malattia implicante l'utilizzo permanente di macchine, eccetera eccetera, non voglio più essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, eccetera eccetera, dichiarazioni, firma. Questa è una firma alle 18.43. Questa mettetela come firma, e chiaro? Mettete anche questa. Io sottoscritto David Parenzo, nato a Padova il 14 febbraio 1976 e residente a Roma, non dico dove. Qualora mi trovassi nella stessa condizione di DJ Fabo, voglio essere sottoposto al trattamento dell'eutanasia. Assolutamente. Beh, questo è il testamento, non ci rompete i coglioni, detto via radio in tutta Italia alle 18.43 da parte di entrambi, che siamo a favore dell'eutanasia. Poi assolutamente ammettiamo tutte le altre cose, per carità. Per esempio, la signora Papessa, la tua amica Francesca Immacolata Ciao, chi ha scritto: sì. DJ Fabo è un vigliacco, non un eroe. Gli eroi sono quelli che restano, quelli che sperano, quelli che nonostante tutto vanno avanti senza mollare mai. Mai. Gli eroi sono i medici che salvano la vita, comunque essa sia, non chi somministra la morte travestita da libertà. Ecco, vedi, mi scrivono già: io ti porterei in Svizzera. Vedi? Io sto dalla parte della vita, e voi? Mi piace un mondo così. Beh, sì, dove c'è l'eutanasia, sì. C'è dove uno può decidere. A decidere se disporre del proprio corpo o no, non è lo Stato, non è la Chiesa, non è Adinolfi che decide quando. Ma che cazzo, ma che paese? Ma che Adinolfi deve decidere quando voglio non morire? Vuole decidere lui, che ma c'entra? Che siamo mai? Ma lo Stato, allora, ma che lo Stato decide? Mattarella, ma che è lo Stato che decide del mio corpo? Ma qual è la più grande libertà se non disporre del proprio corpo? Come avrebbe detto Pannella dall'aldilà? Come lo avrebbe detto? Dimmelo tu, Pannella! Il diritto a qui sopra dove sono, dove non c'è un cazzo da fare tutto il giorno, ci sono solo dei cherubini che fumano, ma non quello che voglio fumare io. Dico che c'è il diritto alla vita. Perché ma tossisce anche nell'aldilà? La vita del diritto. Sì, ma cioè non si capisce un cazzo. Il diritto vive. Ma anche vive. Lì, ma anche lì non... No, qui è okay. Morto il diritto perché un signore è andato a morire in Svizzera. Ma scusa, anche... Mentre quel signore è vivo. Ma ho capito. Lui su... è vivo perché Marco. Ha fatto vivere il diritto sì. A morire. Però Marco. Che... No, ma come tossi? Ma che c'è? Ma sei nell'aldilà tossisci pure là. Sto raccogliendo le firme qua sì. Per abolire il paradiso. Ma lo voglio abrogare ma il paradiso. Perché pure non là serve ti a raccogliere un cazzo. Ma pure oppure là ti mette a raccogliere sì, ma film. Non riesco a scriverle sulla carta perché va tutto in fumo, tutto in nuvola va. Però dico da qua dico che, dici? Che la Corte Costituzionale ma che non c'è lì, ma non no, c'è lì ma qui okay, c'è uno che decide e io ho detto è un problema c'è qui. Libertà, diritto a morire ma quando gliel'hai detto? Ma quando gliel'hai e detto? Dico ogni giorno no, ma lo vedi? Lo vedi o lo no? Vedi, è qui immanente vabbè nella vita del questo diritto. Continua a parlare andiamo con la pubblicità siamo al top ragazzi siamo al top ciao Bruciani a proposito di foro volevo dirti che noi siamo una macchina di proci che siamo in viaggio a Milano stasera un po' di Milano quindi la capitale della perversione. Dark room, sea picking, zenzero nelle cavità anali, le pratiche più strane, insomma. Viva i braci! Viva! Viva i braci! Viva i braci! Io non so se ti è sfuggito il particolare raccontato da questa banda di frocioni che ci ha chiamato in chiusura della puntata di venerdì, David, in cui parlavano di zenzero nelle cavità anali, il che mi ha aperto un mondo nuovo, me l'hanno fatto notare oggi, ma che cos'è questa pratica dello zenzero? Mondo nuovo era un libro di Huxley, se non ricordo sì, male. Sì, come no, assolutamente, ecco. Però non capisco non lo so zenzero. Quali altri mondi nuovi no, tu lo zenzero, evocare. Ma lo zenzero non capisco. Comunque, parla la rom dell'idol. Quella dell'urlo, quella dell'urlo come l'urlo di Munch. No, ecco, un paragone è stupido. Hanno fatto pure un montaggio su internet con l'urlo, ma anche con te, con la tua faccia che urla ingabbiata. Bellissimo. Dovresti raccoglierli. Parla, si chiama Margherita. Perché Margherita? Che c'è un nome italiano questa qua? Margherita, vabbè. La rom Margherita, bellissimo. Fatto scherzo, ha fatto. Era uno scherzo? Sì, da uomini buono, con le ragazze era buono da... Ho fatto io la foto qui. Non fa casino, ma conosco tutti i ragazzi. No. Ma tu li conosci quindi? Sì, lo conosci. Ragazzi, questa frase dovrebbe tagliare ogni discussione in realtà. Non eh? È che la Rom non vuole problemi. Ha visto ma tutta adesso questa adesso tu interpreti sezione. Tu sta cosa, dai. Vabbè, su. Allora dai, allora non ha avuto allora è stato tutto uno scherzo, dai. Secondo me sì. Una meravigliosa giostra, uno scherzo straordinario. Dice, non so, basta. Io non sono arrabbiata. Non sono arrabbiata, senti. Ma ci sei arrabbiata con loro? No, no, che era buono da... Era qui, non lo so, ci ha fatto qui, non lo so. Però ti sei spaventata. Ho fatto scherzo qui. Margherita, la rom dell'urlo, è un mio mito assoluto. Io la voglio, cioè la vorrei qui in studio tipo fissa, presenza fissa con tutto il gonnone. Noi io la pagherei. Ecco, dovremmo pagare un rom per stare qui ogni tanto fisso. Cioè, visto, 50 euro a settimana, tanto che cazzo gli frega quelli. 50 euro a settimana stare qui fissa, la rom, Margherita, la rom. Ferma, ma ogni tanto dice io essere favorevole a questo. E poi sì, come essere favorevole? Sì, sì, io non fare tutto scherzo, era quelli buoni, operai Lidl, essere buoni. Adesso questi due ragazzi rischiano di essere licenziati, di non avere più lavoro per questa cosa. Nel lavoro? Era buono, da, non lo so, ho fatto scherzo, da io era mi paura, capito? Da, no? Davide, vuoi sentire l'editoriale di Riccardo da Roma sui Rom? No, ma sì, fammelo per l'editoriale. Quando lo mandi esco così non lo ascolto. No, ma fammi dire una cosa. No, anche qualora fosse uno scherzo, ma io non credo che fosse tale. Sì. Ma cosa ci ha insegnato questa storia drammatica? Che ci ha insegnato? Avanti, avanti, professor, avanti. Il vomitume di una parte dell'Italia, cioè quella pancia, cioè, quella tu dici, parte fosse uno scherzo comunque. Esatto. Ha comunque messo in evidenza una parte di schifo di quell'intestino grasso e tenue. Ma schifo. schifo. Di quella sì, di quella parte del corpo, di quello schifo, di quell'interiora che ci sono dentro e che la gente ha buttato fuori, di quel vomito che c'è in una parte della società che pensando fosse, stai buono, che pensando fosse vero quell'urlo, e lo era, pensando fosse vero, voleva addirittura i cani sputarli, eccetera. Questo ha messo in evidenza questa storia. C'è Alberto da Macerata, la drammaticità di una parte dell'Italia. Ha messo in evidenza questo che dice la signora, che sono gli altri che vogliono prendersi delle difese non richieste su persone che magari, come dice anche lei, sinceramente stavano non scherzando, però si conoscono a tempo, fanno quello che vogliono lì in giro, questi gli hanno fatto una specie di scherzo, adesso ormai ti teniamo dentro, noi, quegli altri che vogliono difendere a spada tratta assolutamente questi che sono diciamo ladri oppure nel caso ladri. Esatto, li vogliono comunque difendere, questo è il problema. Lei voleva concludere la frase dicendo io non ho denunciato nessuno, sono gli altri che si sono fatti avanti, i ben pensanti o quelli che magari dicono dobbiamo difendere le minoranze. Semplicemente questo qui, tanto è vero che vabbè, ma insomma Alberto, non a fare difficile, qual è il punto? Queste persone a cui stanno parlando, appunto, se queste persone a cui stanno parlando, semplicemente se io sono a casa mia e arriva un ladro a casa mia, se io lo chiudo in casa, questo mi denuncia per sequestro di persona. Ma non esiste il sequestro di persona, è una buffonata. Infatti, dai, solo Parenzo può dire che è sequestro di persona, quella roba là. Sono i ben pensanti che vogliono difendere assolutamente qualcosa che non esiste, che dicono no, quella l'hanno sequestrata, sono stati dei banditi. Ragazzi, sono stati... Allora mettiamo che sia tutto vero, queste qua stavano in un posto dove non devono stare, rubavano, sicuramente hanno fatto delle cose che non dovevano fare, non è successo assolutamente nulla, si è alzata una cagnara sul razzismo ridicola che la stessa Rom nega. Cioè, punto e basta, dai, insomma, di che stiamo parlando? Dai, cioè, la cagnara, mi fa schifo quello che hanno fatto questi qua del Lidl, è una cosa incredibile. Dai, su, con gli altri. Quindi andiamo che a Ruggero Arezzo, vai, Ruggero, vabbè, ho capito, vabbè. Ruggero Arezzo, vai. Oh. Salve Cristiani. Dimmi, Ruggero, dimmi. Senti, volevo fare una precisazione solo sulla questione del assistito. Sì, dimmi. Io ho avuto purtroppo un'esperienza personale dove ho portato una persona in Svizzera. Tu hai portato una persona in Svizzera? Sì. A suicidarsi, giusto? Beh, no, fare a sciare. A suicidarsi? No, non credo che l'hai portata a St. Moritz. No, a suicidarsi. Sì, a suicidarsi. Ma chi era? Un tuo parente, un vicino? Chi era? Era un amico, chi era? La mia ex moglie. Hai portato la tua ex moglie ad ammazzarsi in Svizzera? Quanto tempo fa? Esatto. Questa estate, a luglio di quelle del... A luglio, ma com'è morta? In che modo? Come ha descritto? Con una flebo di... E cosa aveva? Aveva un tumore incurabile. E perché non poteva... Qual è il punto? Scusa, perché è stato necessario andare in Svizzera? Perché non... Spiegami. Perché aveva espresso questo desiderio di mettere fine alla sua sofferenza ed è stata lei stessa ad azionare la flebo. Volevo precisare questa cosa perché mi sembra esiste un po' di confusione con eutanasia. Sì, però ragazzi, qui non è che dobbiamo fare una trasmissione sulle cose tecniche. Lei, certo. Per cui tu hai accompagnato questa roba qua, dunque tu sei favorevole all'eutanasia, immagino, no? O no? Certamente, più che altro sono favorevole alle volontà delle persone. Ma scusa, non era possibile in qualche modo sedarla in Italia e farla vivere? Cioè tu non eri contento, la tua ex moglie, di vederla fino all'ultimo o no? Oppure soffriva troppo? Qual è? No, in quelle condizioni non aveva senso. Vabbè, Marco, provincia di Ancona, ho capito, Ruggero, ho capito benissimo. Ma tu hai paura di essere incriminato? Qualcuno dice che si può essere incriminati per istigazione al suicidio, per... Ma manco per niente. Manco per niente, non hai nessuna paura? No. Vabbè, Ciro, provincia di Lodi, dai. Buonasera, Cruciani. Che vuoi, Ciro? Io non voglio niente, tu ti devi calmare, però Cruciani, ti devi dare una regolata. In che senso? Spiegami. In che senso? Ma appoggio Parenzo in tutto, sei diventato un razzistone. Sì. Ti rompo, rubro, non rubro, siamo d'accordo, però... Che cazzo mi rappresenta se te lo intende tu che gli dai? Sempre Salvini, cazzo. Ma su che cosa? Non ho capito. Salvini. Ma su che cosa? Su che? Sulla storia dei rombi che sono stati chiusi dentro la mia casa. Allora? E allora tu come al solito fai basta al contrario. Dici che hanno fatto bene. Ho detto che, ho detto, non ho detto che hanno fatto bene, ho detto che non me ne frega niente se hanno fatto bene o no. Dico che accusarli di razzismo, accusarli di sequestro di persone è ridicolo. Cioè, no, no, qua non c'è scusa. Scusa, tu, se qualcuno entra dentro casa tua, Ciro, che fai? Tu? Se qualcuno entra dentro casa tua, che fai? Gli dici prego, prego, fatevi avanti, che dice? Fatevi avanti, che fai? Che fai? Non tenti, magari se hai la possibilità di mettere dentro il ripostiglio, che fai? Non lo fai? Non lo fai? Se hai la possibilità di mettere dentro il ripostiglio, lo fai o non lo fai? Stai offendendo la tua intelligenza se fai un qualcosa del genere. Tu stai offendendo il tuo cervello invece, che se ce l'hai. Ma il mio cervello è intatto, il tuo. Il tuo cervello è al posto del cervello c'hai le pigne, come al solito. C'hai un paio di pigne. Di pigne che sfregano così ogni tanto E tu cosa c'hai in testa? Manetto del cazzo. No, in testa c'ho che hai detto, scusa? No, in testa Nanetto? Nanetto, no, Nanetto, no. Nanetto. Ma no, Nanetto al limite si dice a Parenzo Nanetto, non c'entra niente. No, dico pure a te, Parenzo, in confronto a te, Parenzo è uno che ragiona col cervello, tu ragioni Con fuoco nel culo. Come con che? Con che cosa? Mi sembra lucido sto ascoltatore, però mi sembra Ciro dalla provincia di Lodi. Sì, certo. E quindi c'è qualcosa anche contro la provincia di Lodi? No. Tu basta che parli contro chi come ti chiama. Come questo? Ciro dalla provincia di Lodi. Ma perché devi dire così il nome? Grazie, maggioranza silenziosa, lo so, lo so. Ciao ragazzi, a dopo. Esco da lavoro stanca. Ma sono le 6:30, metto la zanzara, sento la voce di Parenzo e Beppe Gruciani e penso solo ad una cosa: menage a trois. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top, siamo il top, siamo il top! Ma va suca! Buonasera Cruciani, tu ti devi calmare però Cruciani, ti devi dare una regolata Appoggio Parenzo in tutto, sei diventato un rassistone. E quindi c'è qualcosa anche contro la provincia di Lodi? Tu ce l'hai, tu basta che parli contro chi ti chiama, chi ti manda a fanculo, è tutto a posto Sto scemi in merda. Caro Parenzo, l'editoriale di Riccardo da Roma, te lo metto così, proprio a tradimento te lo dico. Riccardo da Roma sui Rom. Senti, soprattutto il finale. Riccardo da Roma, capirai, storico ascoltatore della Zanzara, diventa editorialista. Sì, lo tratti come forse Scalfari. Senti, sentilo. Guarda Cruciani, ti dico la mia, anche perché oggi non voglio chiamare. Primo perché non me ne frega un cazzo. E secondo perché c'ho da fa. Ma quello che ha detto pare, guarda l'atteggiamento di Parenzo, proprio io non so, forse gli dai i soldi, magari lo fa apposta. Comunque, riguardo al discorso dei termovalorizzatori e magari della gente esagitata che dice di tutto, perché è normale, la gente è stressata, la gente è esagitata, la gente è impotente di fronte a quello che succede, che te devono dire? No, uno di fronte a un dei ladri colti in flagrante e rilasciati dopo pochi minuti, o poche ore, cosa deve dire? Alla gente cadono le braccia, questo è il problema di cui bisognerebbe parlare, non il filmato e le minchiate alla Parenzo. Mamma mia, ad ogni modo, nessuna termovalorizzazione, ma perché devi? Perché devi bruciare? Perché? Ma perché? Questa è gente che ha fatto soffrire tanta altra gente, questa è gente che ha fatto soffrire, che ha rubato, ha privato gente di beni a cui erano affezionati, in alcuni casi hanno anche ucciso, perché non bisogna dirlo, hanno ucciso, hanno danneggiato proprietà private, questa è gente che ha causato tanto male, tanto dolore. E allora bisogna causare del dolore anche a loro, perché li vuoi bruciare? Perché li vuoi sopprimere? Ma no, lavori forzati, a calci nei denti, tutto arancione, costruire ferrovie, costruire strade, ristrutturare edifici, lavori pesanti, muratore, picconare. E se si rifiutano, manganelli, calci in bocca, spaccargli i denti. Ma così, questo è un mondo totalmente ipotetico nella società decadente in cui viviamo, ma questo sarebbe un mondo governato dal buonsenso. Ma purtroppo governa il parenzo pensiero. L'editoriale di Riccardo da Roma. È agghiacciante anche il tono col quale ha pronunciato. Sì, un ideologo. È apparentemente lucido, pacato e tranquillo. Ci sembra quasi uno statista, no? Dice chi parla? Sarko, che sarebbe Sarkozy. Che Fillon, ma chi è? Chi è, no? Fillon, ma chi è? No, dice Sarko e Sarkozy. Oh, erede della tradizione gollista francese. Beh, molto meglio Riccardo da Roma che di Sarkozy. E invece è un minchione qualunque. No, questo non te lo che questo come non te lo unico consento. Demerito a quello che ascolta questa trasmissione da illo tempore, cioè da tempo antico, da tanto allora tempo, e per questo assurge a editorialista della trasmissione e quindi si cala nella parte il meschino, malefico, maledetto razzista e addirittura cambia il tono della voce, cioè rispetto al passato sembra star così, sembra uno statista quasi, che cazzo è? No, è soltanto Riccardo da Roma, il solito, maledetto, fottuto Riccardo da Roma. Allora ragazzi, andiamo subito a Marco, in questo caso da Milano, vai Marco. Sì, ciao Cruciani. Vai, dimmi. Senti, dimmi, vai. Senti, io voglio offrire un servizio gratuito. Qual è? Penso. Dimmi. Che se il signor Aldinolfi decidesse di, come dire, di ricorrere all'eutanasia. Sì. Io lo aiuto. Cioè tu vuoi ammazzare Aldinolfi in sostanza? No, beh, ammazzare muore da solo, come tutti noi. Capito, ma l'eutanasia non è proprio la morte naturale, non è comunque una morte. Ma se lui decidesse di darsi l'eutanasia, io lo aiuto. Cioè, sostanzialmente ti sta sul coglione Aldinolfi. Ti vuoi liberare di Aldinolfi. Io, ragazzi, la dirò forte. Ovviamente il paragone con Hitler no, ma l'opinione di Aldinolfi ha la sua legittimità. Cioè, non dovete disprezzarla così. Quelli che dicono è Aldinolfi non deve parlare di fronte al dolore. No, DJ Fabo ha voluto. Aspetta un attimo, DJ Fabo ha voluto attraverso i radicali, attraverso Cappato, sì, certo, rendere la cosa la più mediatica possibile, no, la più politica, non politica mediatica. Dunque, è il meglio della politica questo. Ma lascia perdere il meglio o il peggio, politica. Questo è un altro giudizio. In ogni caso tutti hanno diritto di giudicare e di parlare. Dunque non cominciate con le solite storie. È meglio il silenzio. State zitti. Ma che silenzio? L'opinione di Aldinolfi vale come l'opinione di un'altra persona, come l'opinione di un radicale, come la mia, che sono invece strafavorevole all'eutanasia. Io sono favorevole. Io vorrei il metodo della Svizzera. Vorrei le cliniche della morte in Italia. Come si chiamano? Dignitas. Dignità, no, clinica, dignità. Sono cliniche della vita. Vabbè. Perché in realtà la più grande manifestazione di vita è poter scegliere che cosa fare della propria vita. Ma Marco vuole ammazzare Aldinolfi. Sbagli, sono cliniche della vita, non cliniche della morte. Cliniche della vita, trionfa la vita lì dentro. Trionfa il diritto a vivere e a scegliere come vivere in quelle cliniche. Non è clinica della morte, la morte, quella che c'è in Italia, che è la morte delle persone, del diritto, che non possono scegliere fra come poco, vivere, come morire. Tra poco un nuovo collegamento con al di là. Allora Marco, vai. Io non ho detto che voglio ammazzare Aldinolfi, precisiamo. Vuoi l'eutanasia, amico mio. Ho detto che se il signor Aldinolfi volesse ricorrere all'eutanasia, io lo aiuto. Vabbè, dai, su, non fare il coglione con noi, non fare il paraculo con noi che viene a rubare a casa dei ladri. Dai, Antonio da Roma, vai, Antonio. Ah, senti una cosa, Cruciani. Dimmi. Quando è che torna Flavia Vento come opinionista? Che sai che adesso, amico mio, non lo so, non è che siamo al jukebox qua. Anche cioè, richieste, che c'è il jukebox degli metti ospiti. Un euro. Vabbè, no, però se cominciassero ad affluire sui nostri conti correnti delle cifre che ma possono tu pensi anche sempre variare. Quattrini, sei pensi sempre continuamente no, ai quattrini. Voglio dire. Il jukebox. Hai detto una parola che può essere interessante. Rende questa più un jukebox. Un jukebox a pagamento. Cioè, ma sì, perché io devo sentire bestialità. No. Cioè, uno dice: voglio risentire Mario Borghezio. Benissimo, sono 10 euro. 10 euro qua, 10 euro là. Sai, con tutti questi mostri mi hai dato un'idea su quello. Mi hai dato un'idea su questo. Poi te la spiego. Fai un piccolo tesoro. Poi te la spiego. Per i tempi bui. Ragazzi, veramente siamo messi male. Siamo alla frutta. Voci da Follonica sui Rom. Voci da Follonica sui Rom. Ma faceva così alla gente, faceva vedere la pastorella. Ma no, lei, ci sono i video su Facebook. No, ma lei. Ma conosce tutte le ragazze, no, fa che casino. Fanno veramente schifo. Hanno sbagliato perché l'hanno messo sul web. Solo questo hanno sbagliato. A chiudere invece hanno fatto bene. Noi siamo molto educati in Italia. Ma loro non sono italiani. Io avrei messo le due rom in galera. Io sto con lei, ragazzi. Poi c'hanno i denti in bocca d'oro, non li vendono e cercano nella massa nel tutto spiano. Perché comunque sono persone che ti ostacolano proprio nel vivere quotidiano. Sono loro che siano più a Pollonia, perché non li mandano a quel paese? Bisogna metterla nel tritacarne, dice quest'altro. Ragazzi, i messaggi più sconvolgenti che ci sono arrivati dopo le 19.30, restate qui. Allora, dove andiamo? Silvia, Bologna, vai. Sì, ciao Cruciani, ti chiamavo per raccontarti un fatto che è successo oggi nella biblioteca di Bologna. Io sono una studentessa, è successo più o meno quello che è successo già al 36, un ragazzo si è masturbato ed è venuto su una ragazza. No, aspetta, questo è un altro fatto clamoroso. Dai, ma che roba. Aspetta, sì, vabbè, sta raccontando una ma cosa concreta. Ma dovrebbe essere vero sta porcheria, dai. No, è vero, ero presente. Scusami, stai dicendo che è una bugiarda, signora Silvia? Ma non lo so, ma che uno chiama la radio della Confindustria. Ma cosa c'entra? Ma questo è un fatto. È un fatto, in una biblioteca di Bologna, Vetroni, è vicino alla biblioteca del 36, sono quella famosa biblioteca parti. Dove hanno rotto i coglioni i centri sociali lì e con le tiglie, è successa più o meno la stessa cosa l'estate scorsa. Ma che biblioteca è? Comunale? Che no, cos'è? Questa è una sala studio universitaria dell'università, però... comunque, no? Dell'università. Sì, teoricamente si accede con il badge, però non c'è nessuno in guardiola. Cioè è una biblioteca universitaria anche questa? È una biblioteca universitaria. Allora? E allora le persone accedono col badge, però non c'è nessuno che controlli. E che è successo? È successo. Cosa che sarebbe ragazzo, successo? Diciamo. No. È successo che la biblioteca era piena, un ragazzo ha iniziato a masturbarsi sotto il banco, a un certo punto si è alzato e è venuto sulla schiena della ragazza. Ma come, ragazzi, però perché dovremmo credere? Il contorsionista. Perché te lo racconto io che l'ho visto in L'hai visto momento. Là? Che cosa ha fatto sta ragazza? E gli altri cosa hanno detto? La ragazza si è alzata, ha iniziato a urlare, abbiamo fatto cerchio, abbiamo visto questo ragazzo che... ha iniziato, è scappato. Ma chi era? Che personaggio ma era? Il ragazzo avrà avuto più o meno 24 anni, insomma, la nostra età. Un ragazzo che si camuffava tranquillamente con gli studenti. Vabbè, ma è già successa sta cosa. Cioè, era successa una volta in quella famosa biblioteca dove è successo al 36, il casino. Al 36, in modo... Ma adesso non è che identico. Ho capito, ma che è un'usanza, no. Che adesso cos'è? Arriveranno segnalazioni da tutta Italia, dice, ma dai ragazzi, che porcheria. Ma guarda, insomma, che è vero. No, ho capito, se è vero ho capito, ma identificate, no, ma questo Silvia dice questo le biblioteche dire? Spesso sono incontrollate, cioè avvengono delle cose. Ma che sì, ma qui non c'è nessuno che guardi. Vabbè, comunque tu ragazzi, non credo con il badge, ma chiunque può entrare. In fila dietro quello che è già entrato. Sì, vi vedremo. Dacci i riferimenti di questa ragazza, se è vero, perché andiamo a controllare. La conosci questa ragazza? Ma questa ragazza non la conosco, non la conosco personalmente, però insomma... Vabbè, procurati... di tutti. D'accordo, procurati i numeri di telefono e cose controlleremo. Antonio da Roma, vai. Allora, voglio parlare con Parenzo. Eccolo qua. Chi è questo Parenzo, qui? Sì. Spiegami una cosa. Chi è questo qui? Chi è Antonio, Antonio, signor Antonio. Adesso decido se dialogare oppure no, da oggi. Questo è un nuovo corso. Ma decido. Quello l'hai già detto prima. Allora, no, però no, ascoltami, decido. Parenzo, però ascoltami poi in caso di altro. Sì, sentiamo. Allora, i ragazzi di Pollonica hanno fatto una cosa giusta. Hanno fatto una cosa per legge giusta. Stavano impedendo la realizzazione di un reato. Vabbè, però adesso non fai l'avvocato tu, la contestazione tu, non è non questa fai la mia. Io faccio l'avvocato, però questi ragazzi impedivano la realizzazione del reato. Sai perché i ben pensanti come Parenzo si scandalizzano? Perché quella matta urlava come uno stesso. No, per il fatto non che urla. Allora, beh, anche se... per quello, anche no, per quello. Se non fa... A me ha scandalizzato. A me normale, fa. A me mi raccapriccia la situazione nella quale la Rom viene chiusa in gabbia. I due non solo la chiudono, ma la prendono in giro, riprendono il fatto. E il fatto diventa talmente eclatante che la gente in rete, anche qui al telefono, non ha avuto nessun motto di dire: oh mio Dio, ma che sta succedendo? Hanno detto: no, troppo poco di più dovevano fare. fare, cioè non focalizziamoci sulla ladra, va bene, chiamiamola la ladra zingara, chiusa in gabbia. Il fatto non è solo la ladra zingara chiusa in gabbia, ma la reazione delle persone, la reazione delle persone, questi che la persona media italiana, della persona media italiana, che ovviamente poi non lo... Ma come stai parlando, Antonio, prima che mi incazzo, come stai parlando? È una barbarie. Non in viva voce. Dai, su. Dai, sono mia moglie qui accanto che odia la vostra trasmissione e sto facendo un... Fammi parlare con tua moglie subito! Fammi parlare così, ti vergogna da morire. Come si chiama? Come si chiama? Ha ragione la signora. Sara, passami Sara, passami Sara. Brava persona la signora, ha ragione. Ciao ragazzi. Sara, tradisci tuo marito? Assolutamente no, è lui? Pure una bambina. Ma che c'entra? È piano di gente che tradisce, che anzi i bambini sono il primo motivo di tradimento. Assolutamente, no. Perché finisce tutto dopo i bambini. Tu lo devi sapere. La vostra relazione sessuale è buona o no? No, ma tu, giusto per sapere, mi devi dire un sì o un no. È normale, sì, oppure buona, cioè non ha avuto un momento di basso dopo il film? No. Ci avete continuato come prima, a parte di più. Vabbè, ma chi c'è? Crede, dai, su, Sara, ma perché non vuoi che ascolta la zanzara? Non ho capito. Troppe parolacce. Basta con sta buffonata. Ho incontrato fior di professori che sono innamorati di questa trasmissione e se ne fottono delle parolacce e adorano questo linguaggio normale, quello di tutti i giorni. Io mi stupisco di come la gente si stupisca, capito, cara? Sara, è questo il punto. No. Senti, ma la relazione è interessante. La relazione sessuale si è tenuta, si è mantenuta anche dopo il figlio. Quanti anni ha tuo figlio? No, deve ancora nascere. È incinta la signora. Che ne so, avevo capito male. Ragazzi, mi sto rincoglionendo, la mia età, no? Cioè, vabbè, allora, scusa, quanti mesi sei incinta? 7 mesi. Vabbè, ma adesso è finita, cioè, non è che ancora adesso. Cioè, sì, per adesso è finita. Cioè, passami tuo marito, va, come va? Sì, come vanno questi ultimi mesi? Come vanno questi ultimi mesi, amico mio? Meglio dei primi. Sì, come vanno questi ultimi mesi? Senza fare nulla, amico mio? Che dobbiamo fare? È tosta, Fermo là. Dipendente Lidl chiude Rom con i rifiuti. ; La puzza mi ha tratto in inganno. Allora, Cruciani, sto risentendo per la 100ª volta l'audio del filmato della Lidl. Queste qua, ammesso di sapere qual è la vera identità, la signora, se la guardi, fa di quelle scene che nemmeno negli allevamenti di maiali si sente, quelle urla lì. È ammaestrata, sa benissimo che deve fare così per fare clamore. Ma vaffanculo, quelle zingare del leader dovevano morire. L'errore dei due del Lidl è stato il fatto che non li hanno buttato su a quelle due zingare di merda dell'alcol e non gli hanno dato fuoco. Ripeto, ucciderne uno, educarne 1000, cazzo. Ma pensa a te, se mi devo preoccupare di ste rom, di ste coglione di merda, 9 di questi su 10 sono delinquenti e fanno piangere tanta gente con la loro cattiveria, e io mi devo preoccupare di 2 rom che l'hanno chiuse 10 minuti nella gabbia. Ma va a far mocca la morta da mamma, te pare. Premio ai 2 eroi della Lidl che hanno chiuso dentro le zingaracce. La prima urlava come una scimmia apposta e l'altra si faceva i cazzi suoi e continuava a rubare. Ma date fuoco, forza Cruciani, solo ragione tu, la tua milfona. Beh, adesso amica mia, io non ho detto questa cosa qua. Comunque è questo il panno, la cosa seriamente che mi dà più... Ma non preoccupazione, che mi fa più schifo, che mi fa pensare a quanto la barbarie ormai sia penetrata negli assetti della società. Cioè, questa adesso roba non qua, fare filosofo. Ma non è filosofo, questa roba qua è agghiacciante. Allora, quella è una ladra, benissimo, d'accordo. Stava rubando, mettiamo che stesse rubando. Bene, stava rubando. La Rom stava rubando. Ma i due dipendenti. Però queste persone qua che hanno la storia in ordine. Aspetta un attimo, queste persone qua che hanno detto benzina, fuoco, eccetera. Che va fatto, secondo questa te? Che va fatto? È la cosa. Ma no, ma cosa va fatto? È ovvio, no? Vanno presi i nomi e cognomi di questi che hanno telefonato, e siccome questo mi pare razzismo e incitazione alla violenza, mi pare evidente che sono persone che devono prendere una bella randellata giudiziaria, cioè con gli strumenti della legge, devono randellata giudiziaria con gli strumenti del diritto. Cioè, se uno dice a fuoco i rom, lo dice o lo scrive su Facebook, va punito, va processato. Assolutamente sì, perché sennò la parola, certo, è la parola violenta. Ma perché volete, vi siete indignati per le parole che il professor Toni Negri ha pronunciato all'Università di Genova qualche giorno fa, dove il giornale Libero ha fatto un articolo scandalo del professor Toni Negri, che all'età di 75 anni è andato a fare la sua bellissima lezione a Genova, e tutti hanno detto Toni Negri incita alla violenza, cosa peraltro non vera. Adesso si mette in croce Toni Negri per quello che ha detto sulle questioni delle masse operaie, e uno, gente che chiama e dice che vuole dare fuoco ai rom, che quelli hanno fatto troppo poco, va bene, perché è la libertà di parola. Ma stiamo scherzando. E invece le maschere di carnevale, sai che ho visto negli che ultimi hanno giorni fatto la maschera, c'era uno vestito da operaio della Lidl, della Lega, sì, è una sindaca della Lega, ha detto mi fa molto ridere, una sindaca della Lega. È una dietro le sbarre. Sì, vabbè, ma questo appartiene a una donna mascherata da rom in gabbia, però, e un uomo mascherato da un dipendente. Però Lidl. Vedi, sarebbe stato come se al finire della guerra, come se nel 42, nel carnevale del 42, sì, qualcuno in Germania avesse ritenuto divertente fare le maschere di Hitler nel 42. Ma no, oggi insisti ancora con questo paragone. Giuseppe da Milano, dai, Giuseppe da Milano. Mamma mia. Vai, dimmi Giuseppe, dimmi. Mamma. Io tiro via la mia voce. Ciao Giuseppe. Solo una cosa, io sono d'accordo con quel tra virgolette statista che diceva di mandare i rom ai lavori forzati. Però non solo i rom, anche gli italiani, perché i rom Vai Giuseppe. Mi hai sentito? Quando nascono oramai qua in Italia, sono italiani. Sì. Quindi secondo me i lavori forzati vanno per tutti, non solo per i rom. Ecco un altro. Ma non ho capito. Tu vuoi i lavori forzati per i rom in che senso? Scusa, spiegami. No, io vorrei i lavori forzati per quelli che sono stati incarcerati, e anziché tenerli in carcere di 6, 7, 10 anni, un anno. Che siano rom poi, o comunque anche italiani, che facciano i lavori forzati, i lavori utili che possono servire a noi. Ragazzi, però i lavori forzati sono una cosa da paesi un po' bizzarri. Ci sono i lavori socialmente utili quando sono previsti dalla legge. I lavori forzati è un po'. Sì. Cioè, non è una cosa semplice da farli. È come Sing Sing, non so, cioè, Alcatraz. Ma... Tu vorresti. Esatto. Sì, cioè, sì, tra l'altro, io certo. Leggo qua una stringa sotto il tono per Giuseppe da Milano, cattolico praticante, d'accordo con chi vuole rom e i lavori forzati. Da cattolico praticante dici che i rom, quelli colpevoli di non so che cosa, devono, o altri prigionieri, altri carcerati, devono subire i lavori forzati. Certo, anche perché poi i rom, quelli che nascono qua, oramai sono italiani, quindi poi diventerebbe molto difficoltoso decidere quale tipo di rom. Ciao Giuseppe, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, Mara Dinolfi ha scritto: DJ Fabo è morto, ora la nostra domanda è semplice, speculando su questa tragedia, che legge volete? Volete il sistema svizzero che sopprime un disabile a listino prezzi? Iniezione di pentobarbital, non so come si pronunci, pratiche funerale, 18.000 euro tutto incluso, volete sfruttare l'onda emotiva per ottenere questa vergogna? Hitler almeno i disabili eliminava gratis. Ora, la posizione di Adinolfi e di altre persone, non solo di Adinolfi, sulla questione dell'eutanasia è abbastanza chiara da tempo. Cioè, è legittimo, diciamo la verità, però io sono a favore dell'eutanasia. È legittimo essere contro l'eutanasia. Vabbè, chi mette? Cioè, è legittimo essere contro il sistema svizzero. È assolutamente legittimo. Poi lasciamo perdere il discorso sul testamento biologico e fine vita, che è un discorso molto complesso. È legittimo, ma non è legittimo togliere dei diritti a altri cittadini. Cioè, è legittimo che Adinolfi non faccia ricorso all'eutanasia. Come è legittimo, però tu che dici cos'è? Invocare Hitler è sbagliato. No, ma è legittimo che la moglie di Adinolfi non pratichi l'aborto. È legittimo che Adinolfi non pratichi il divorzio. Ma non è legittimo che Adinolfi vieti mi sequestri il mio corpo, mi eviti di divorziare, mi eviti di abortire. Questo è Mario. Questo ciao. È il punto. Ciao Mario. Sento una enfasi enorme, Adinolfi non può vietare nulla, quindi insomma Adinolfi ha un'opinione, viva la sua opinione, che credo possa essere legittimamente differente da quello di David Paretti. Ma è un punto politico il mio, non è una questione legittima, tutto è legittimo, è evidente. Cioè lui dice che ci deve essere consentito, dico, il diritto, certo, in Italia a DJ Fabo di ammazzarsi. Io non obbligo Adinolfi a divorziare, però però Dinolfi non può vietare a me un diritto, che è quello di porre allora, fine innanzitutto, al mio matrimonio. Voglio, voglio chiedere a Mario una cosa: secondo te DJ Fabo, come viene dipinto da tutti oggi, è un eroe oppure no? Oppure è un vile, un codardo? No, se non starei proprio a discutere a cadavere caldo se è un eroe o un vile. È una persona che è stata attraversata da una tragedia enorme, enorme, e ha fatto una scelta, condotto a morire in Svizzera, dove spero che almeno gli abbiano pagato il conto del pentobarbital, in un luogo dove lo si fa per clientela, capiamolo bene. In che non senso per clientela, scusa? L'associazione Exit, l'associazione Dignità, non sono associazioni benefiche. No, guadagnano, guadagnano, paghi, certo, paghi. Paghi, fai un bel business. In cui un beh, un business, questo non c'è dubbio, Lorenzo, che sia un business non c'è dubbio. Ma che vuol dire un business? Il principio attivo di pentobarbital costa 13 euro, lo vendi a 18.000 e ci fai, diciamo così, un bel business sopra, con migliaia di persone all'anno che vengono soppresse in questa maniera. Sì, però tu lo dipingi come una sorta di cioè, che cos'è? Una specie di secondo te un campo di concentramento, quella roba lì? Peggio, no, di un... è un campo di concentramento. Io ho fatto un parallelo ben preciso, non perché sono un pazzo che volevo mettere in mezzo il nazismo. Beh, hai parlato di Hitler. La prima legge sull'eutanasia è di Hitler, è del 1939. Ma che c'entra? È precedente alla soluzione finale. Ed è ma era su base etnica. No, non su base etnica, è l'uccisione dei disabili. Certo, perché erano considerati imperfetti. E 1941. Era su base ideologica, non etnica. Non è su base ideologica, è su base sanitaria, tant'è che viene applicata dal Ministero della Sanità. Sì, ma questo ma perché? Certo. Perché venivano considerati 39, non puri, non alieni, non perfetti. Non perfetti. No, vabbè, però soppresse 70.000 persone con un'operazione che si chiama Action T4. Ma quelli non volevano morire. E il 1940. Ma la differenza fondamentale è che quelli non volevano morire, per questo è un paragone del cazzo. Questione. No, ma scusami, però. Proprio, se volete parlo. Vai, dai, 70.000 morti. Dai, Mario, forza. 70.000 morti tra il 39 e il 41 vuol dire 23.000 morti l'anno. Belgio, Olanda e Lussemburgo, con la legge sull'eutanasia, sono partiti nel 2001 con 60 morti. Adesso in Belgio se ne fanno più di 2.500, in Olanda 6.000. Se ci metti insieme gli olandesi, i lussemburghesi, arriviamo a una differenza fondamentale, morti. Però. Allora, su una popolazione che è la metà della Germania. Ora, se voi fate questo conto, io sto semplicemente ponendo una Vabbè, questione. Allora, se facciamo questo conto, hai sbagliato il paragone. Siete sicuri che se voi assegnate a un sistema la possibilità di curarvi con costi enormi o sopprimervi con 13 euro, quel sistema non farà in modo di orientarvi verso Vabbè, la soppressione? Ma questo qua non è così, dai, su. Ma tu, però scusa, perché tu hai... Scusami, Mario. Ma perché morti. È evidente che quando c'è una legge... DJ Fabbo? Ma perché quando c'è una legge... 5.600 DJ Fabbo? Ma no, perché là è consentita anche per altre perché cose che non siano... Anche se non sei malato ormai sopprimono, basta che ti firmano una dichiarazione per grave disagio psicologico, è giusto? Mario, alle 8 ti faccio ascoltare una cosa, se tu ti faccio ascoltare una cosa alle 8 per cui ti incazzerai molto, e che in qualche modo viene incontro a quello che dici, cioè si può morire oggi anche per depressione, se tu sei depresso hai la possibilità, hai la possibilità di rivolgerti ad Exit e di... crepare. Ed è giusto? Io non lo so, se io, per me sì, però io perché sai, per me... Mi lasciate dire per me no? Sì, però dire Hitler, che c'entra Hitler? Questo è esattamente Hitler. Ma perché Hitler? Perché tu davanti a un depresso, la soluzione che trovi è non curarlo, ma ucciderlo. Stai applicando la soluzione che Hitler aveva. Ma no, quello lo fa volontariamente. Quello lo fa volontariamente. Non volevano morire. Ma quelli, quale volontariamente? Gli handicappati di Hitler, gli ebrei e tutti gli altri non volevano morire. Non volevano morire. Tu ma come no? Tu puoi orientare la scelta in mille modi. Se non tu c'è orientamento. No, allora, un'arma e dice sparati a un depresso. Certo che può essere che si spara, ma sarà meglio andare vicino a un depresso e dirgli in qualche modo vai avanti. Secondo te non ma io non ho capito, DJ Fabo, l'avresti lasciato vivere tu in quelle condizioni che hai visto? Ma che... non parlo della sua vicenda, ormai la sua vicenda è chiusa, io voglio parlare della legge. Che legge volete? Io ho scritto semplicemente io voglio questo. La Svizzera, volete io la voglio la Svizzera. La Svizzera? Io no, perché per me quello è nazismo, d'accordo? Cioè, e dunque chi aiuta, chi ha aiutato DJ Fabo a morire va incriminato secondo te? Ma non lo so, non me ne frega un cazzo del dato giuridico, mi frega di capire adesso che state facendo il cancan sul cadavere, l'obiettivo qual è? La legge? Ma allora, l'obiettivo, in Italia figurati, la legge. Certo. Una legge che dà un depresso una pistola in mano, gli dice sparati perché non me ne frega niente se ti spari, è una legge nazista. basta. Ma non è, lascia perdere il depresso. Perché non sceglie un depresso. Il suicidio, suicidio assistito, che è quello di cui stiamo parlando. Guardate, che è diversa dall'eutanasia. Sono gli stessi numeri di Action T4, ma come mai sono gli stessi numeri? Lo capite che ormai sì, però, scusami, sotto la democrazia, ma la quale... scelta è uguale. Se però scusami, non puoi paragonare una situazione in cui la gente veniva costretta e veniva ammazzata. Appunto. E a una situazione in cui c'è. Ma una situazione in cui c'è la volontà dei singoli. Guardare i numeri. Ma che c'entrano i numeri? Scusa. Ma che vuol dire i numeri? I morti sono morti. Si possono prendere mille paragoni da questo punto di vista. Come fai a dire, a paragonare Hitler che costringeva. C'era una legge sull'eutanasia ed identicamente chiamata e con gli stessi obiettivi e con le stesse finalità e gli stessi soggetti che vanno. Ma non, non erano le stesse finalità. Se tu arrivi in una situazione in cui ti risparmio, leggete quelle ma cose. No, ma il risparmio, ma quale risparmio? Ma quale risparmio? Ma perché pensi al risparmio? Che c'entra risparmio? C'è scritto sui fogli dei nazisti. Ma i nazisti sì, magari i nazisti sì, ma noi no, ma noi non vogliamo risparmiare. Tu pensi, tu sei così ingenuo che pensi che non è una questione che ha a che fare col risparmio rispetto al welfare. Ma io non credo, io non credo. Io penso di sì, basta. Io però scusa, vorrei tornare. Tu non vuoi parlare di DJ Fabo, però tu da quello dobbiamo partire, perché la notizia di oggi è quella. Io non capisco. Ho parlato di DJ Fabo, ho detto quello che avevo da dire. Io ma non capisco. Hanno chiuso il profilo Facebook, mi hanno bannato per un mese. Ma quello è ridicolo, dai, quello è ridicolo, dai, quello è patetico, ridicolo. Quello è patetico, ridicolo. E non ha senso. Che Adinolfi vivo, DJ Fabo è morto, che tutti scrivono sotto e viva, ammazziamolo. È già successo, eh. No, ma quello più che parlare. No, ma voglio capire una cosa, non ho capito, voglio capire una cosa. Quando tu dici Hitler li eliminava gratis, dice addirittura 18.000 euro, no. Dice addirittura che la Svizzera è peggio, la Svizzera è peggio dello stato del nazismo. Certo, vabbè. Ma certo, ma 18.000 euro non ti fanno schifo che sia stata pagata questa presunta. Ma è così per forza, è un servizio, è un servizio. Certo, fino a quando ma come ciao, fino a quando il diritto non è garantito, è ovvio servizio, che è come, è come durante l'aborto, è come durante i rifiuti, ok, è ok, come ma no, ma ci sono delle procedure, Mario, si dai, paga, su. Si paga il servizio, si paga un servizio, euro, un servizio che purtroppo lo può praticare solo chi ha i soldi, purtroppo, certo, però va legalizzato infatti, secondo te i radicali che adesso addirittura si vogliono cappato, in realtà pure quasi fuori dalla radicale. Parla tutta la tarantella, certo. Dici che si vuole autodenunciare, sì, questa oggettivamente un po' di volte, no? Questa oggettivamente è una cosa ridicola, apparenza, no? Quale l'autodenuncia, abbiate rispetto per chi almeno fa delle battaglie politiche, per cui è nazista pure lui, è nazista pure lui. No, Marco, io lo conosco perfettamente. Abbiate rispetto almeno di chi ancora fa politica in questo modo puro e disinteressato. Il loro rispetto, a me le possono mandare a morte, ma come funziona? Ma nessuno ti ha mandato a morte. A te. No, ma chi ti ha mandato a morte a te? Ma leggete, sono 2000 messaggi, penso, non uno, 2000. Nessun radicale augurerebbe la morte a nessuno, quindi. Ma no, ma lasciamo perdere. Comunque, la cosa che chiudono il profilo di Adinolfi, non lo vogliono lasciare parlare, è una follia. Cioè, perché qui non è ammessa l'opinione contraria, l'opinione diversa da quello che è il mainstream. Tutti quanti oggi dicono DJ Fabo è un eroe, i radicali hanno fatto bene, Adinolfi ha un'idea contraria e questo è giusto che venga espressa. È legittima un'idea contraria, la possiamo esprimere. Hitler è una cazzata, Hitler è una cazzata spaventosa. Scusami se te lo dico, Hitler non c'entra. Ma che c'entra, dai, su, ma non c'entra niente. Non era una legge. Eutanasia vuol dire come sai dolce allora morte. Fermi un attimo, dopo ti ragazzi, dopo vi faccio ascoltare una cosa. Resta con noi, Mario, perché ti faccio ascoltare una cosa che riguarda la depressione. Riguarda la depressione. Adesso non vedete, privete pure voi. Dopo non parliamo più, parliamo di altre cose. Vogliamo Parenzo chiuso con la Rom. Lasciati un Parenzo e alla defecarsi io non ci penso. Volevamo soltanto dirti, Cruciani, che stiamo tornando da un tour e che alla fine, nonostante facciamo rock e siamo una super band, siamo qua a parlare di Radio 24 e della Zanzara e di quanto Parenzo. Tu sia un grande, di quanto Parenzo sia soltanto uno stronzo. Diteglielo, pezzo di ragazzi. Merda, un grande pezzo di merda. Chi dice che Parenzo è un grande? Parenzo è un grande. Dillo, batta. Siamo la minoranza silenziosa. Milano Fashion Week, in mezzo ai fighetti di merda. Salgo in taxi, sento che il tassista sta ascoltando dalle cuffiette una trasmissione a me nota, E a un certo punto io dico: amico mio, amico mio, metti la bomba sta merda, togli la cuffietta e metti la bomba la merda. Grandissimi, siamo al top. Avevo un fratello che ritenevo moderatamente intelligente. Poi è arrivata questa merda di trasmissione e ora è tutto Cruciani, Parenzo, Froci, puttane, cagate. Non ho più un fratello. Davide, fermo lì, eh. La banda rock, vorrei sapere chi era. C'era una grande divisione tra la maggioranza silenziosa parenziana e la... E la chi sì. dava dello stronzo a Parenzo e sì, supporter sì, del sì. sottoscritto, tutto regolare, tutto nella norma. Allora c'è anche Mara Dinolfi in collegamento con noi. Fermi un attimo, scopro che sei stato a Cortina ospite. Sì. Poi te lo dirò. No. Sì. No, no, no, aspetta, no. Dai. Perché rompete i coglioni a me per i posti dove vado io, sempre mi fate le pulci in tasca. Scopro che vai con l'ottimo Belpietro, per carità di Dio, meraviglioso, al Grand Hotel Miramonti di Cortina. Che sono 5 stelle, che non ti si può nascondere, non ti si può, non ti si può nascondere Gremur e informazione controcorrente al Miramonti di Cortina. E poi gratis, spesato in quell'albergo. E poi rompi i coglioni a me perché sono andato a spese mie 3 giorni a Parigi. Ma vaffanculo, ma io vado via. Guarda, vado via, vado via. Aspetta, ciao. Aspetta, no, aspetta, no, poi no, racconteremo tutto. Vado aspetta via. Un attimo. Allora, vi devo far ascoltare questa cosa. Abbiamo chiamato, adesso ci accuseranno, non me ne frega niente, però alcune cose vanno anche scoperte, come si fa, come si fa. Allora, quella che sentirete è una telefonata tra un finto depresso cronico e il presidente, com'è che si chiama, Coveri, dell'associazione Exit, no? In cui sostanzialmente una persona chiede se si può morire in Svizzera anche se si è depressi, non solo se uno è malato terminale come DJ Fabo, no, anche se uno è depresso. Successe anni fa a un vecchio leader comunista, se non sbaglio, vecchio leader comunista italiano, giusto Mario? Non mi ricordo chi era. Lucio Magri. Allora, grande Lucio Magri. Sentite questa telefonata, poi mi darai il tuo commento, Mario. Sentite tutti perché è molto significativa. Pronto? Sì, buonasera. Parlo con la Exit Italia? Sì, sono il presidente Emilio Coveri, buonasera. Sì, buonasera. Posso parlare con lei? Certo, ci mancherebbe. Io sono una persona depressa, sono molto depresso, mi curo, mi sono curato da tanti anni, adesso non ho più voglia di farlo. Sì. Fisicamente sono a pezzi, ho diabete, ho tante rogne. Sono anche impotente, ma già ha voglia. E la conseguenza, purtroppo. Guardi proprio. E ho perso tutte le persone che amavo, quindi che ci sto a fare? Ecco. Non c'è più nessuna ragione di stare a questo mondo. Io ci ho pensato, guardi, ci ho pensato non bene, ci ho pensato benissimo. E quindi credo di aver diritto di decidere della mia vita o della mia morte. Quello senz'altro. Il problema grosso è che, le dico subito, le 4 associazioni svizzere a cui ci possiamo appellare sicuramente ci accolgono, perché non ci rifiutano mai, soprattutto anche per quanto concerne il discorso della depressione. La cosa però, diciamo che... purtroppo le devo dire è che sicuramente le cose sono più lunghe di qualsiasi altra malattia, non so, tipo oncologico oppure una malattia tipo sclerosi e altre cose. Guardi. Però, come le dico, facciamo appello lo stesso, vediamo, andiamo fino in fondo. Le dico subito che per fare la richiesta di attivazione di suicidio assistito agli svizzeri bisogna portare delle cartelle cliniche di psichiatri italiani, in cui dicono tutto il suo disagio per scritto, e quindi c'è necessità di una perizia abbastanza così completa. Facciamo una cosa, lei adesso incomincia a mettere da parte tutte le scartoffie che ha riguardo appunto tutto il suo disagio. Sì. Poi mi richiama subito la prossima settimana. Sì. E io le dico che cosa dobbiamo fare per portare avanti tutto il discorso. Quanto mi verrebbe a costare? Sono 10.000 euro, che sono comprensivi di tutto, appunto, la cremazione, il trasporto della salma, la medicina, i medici legali, l'altro medico che viene a visitarci, quello che ci accompagna, e l'agenzia funebre. Tutto insieme allora, 10.000. Tutto compreso, sì, sì. Viaggio escluso naturalmente. Sì, io penso che lei mi abbia capito molto bene, nel senso che io non sono un malato terminale, io non ho una malattia che mi porta alla morte, sono io che voglio andarmene perché sono stufo. Certo. Quindi sì, da questo punto di vista lei dice allora se porto le cartelle lei mi può aiutare? Ma io le dico che... Non tanto io, che io cercherò di aiutarla il più possibile, nel senso che, sa, noi siamo qui apposta, lavoriamo proprio per quello, e la cercherò di accompagnarla il più possibile verso il suo intento finale, anche con il discorso svizzera. Io le faccio fare il testamento biologico, la domanda di iscrizione alla nostra associazione, e poi quando riceve la tessera societaria e indietro il testamento biologico vidimato, che questo servirà poi da mandare su anche in Svizzera, le manderò la lettera da fare per rivolgersi appunto a uno di questi quattro amici, quattro associazioni che ci aiutano e ci accompagnano al suicidio assistito. Intentiamolo perlomeno, cominciamo a fare istanza e poi morderemo i denti e mangeremo i coglioni fino a che basta, via. Va bene. Ok, viva più serenamente possibile, anche se no, non me ne frega niente. Lo so, però cominciamo allora adesso lotti per raggiungere questa sua decisione, perché avrà tutto il nostro appoggio incondizionato. L'unica cosa che possiamo aiutarla è cominciare a metterla sul binario, giusto? E poi vedremo di stringere un po' i denti. Interverrò anch'io un attimino, vedrò come. Adesso cominciamo a fare. Lei si metta da parte tutti i documenti medici che dicano che lei ha questa depressione pazzesca, eccetera, eccetera. Se deve farsi fare un altro foglio, una perizia dallo psichiatra italiano, non gli dica che è per l'eutanasia. Le dica che le serve per la sua assicurazione che ha e che le potrebbe dare un piccolo indennizzo. Se no, questi stronzi qua di medici italiani non le fanno il certificato. Va bene? La ringrazio, è stato molto gentile. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie. Salve, buonasera. Arrivederci. Mario! Non lo so, commentate voi. Insomma. Oh, vai, se vai, questa vai. Non è una telefonata di un'operazione di business, è tutto evidente. Poveri e bello ringalluzzito. Ma offrono un servizio. Cioè. Offrono il lavoro. Un servizio, certo. Visto che qui questo diritto non è garantito. Visto che questo diritto qui non è... se non capite che questo è l'inferno. Ma come, no, quando, allora, come quando l'aborto era clandestino e le donne morivano per gli aborti clandestini, come quando 3, 4, 5, 10 persone a chiamare Coveri per fare 100.000 euro in più. Io non so se non vi rendete conto di quello che è allora, questa roba qua. A me la frase che mi ha colpito di più... Imbrogliate coi medici. Quella è la cosa. Cioè, è una cosa fastidica. Io non so come fate a dire questa cosa, è una roba accettabile. No, ma io, per me se uno ha una depressione da cui vuole uscire, vuole crepare, secondo me, siccome ognuno è padrone... Raccoveri, certo, ma come no? Ma è padrone del proprio corpo. Scusa, Mario, tu pensi che sennò la nostra vita non ci appartiene... 200.000 euro, va benissimo. Se tu pensi che il nostro corpo appartiene a qualcun altro, se tu pensi, esatto, che il nostro ma corpo io penso che almeno un minimo d'umanità ce l'avete pure voi e pensate che un depresso vada aiutato con l'affetto, con ma la sicuramente amicizia, va aiutato un depresso, ma senza dubbio, famiglia, certo. Ma senza dubbio vai da Coveri, cazzo. Ma che ma c'entra, ma certo, ma se poi decide di andarci, se poi decide, se metti una pistola in mano a uno che vuole spararsi, quello si spara, ma voi non lo capite, questo è drammatico. Che quello che si vuole sparare, tu devi andare lì a dirgli di tutto per fargli scegliere la vita. Vabbè. Voi dite no, mettetegli la pistola in mano. Ma mi sembra ma questi quel servizio fanno, però non è che un altro 10.000 euro, ma che siete pazzi? Ma veramente va bene una cosa del genere? Imbrogliando con i medici, con la perizia finta. Fai finta no, che perizia finta no, la perizia finta ma no, dai, la perizia finta no, perché non ha detto no, la perizia no, finta. Ha detto proprio, vai lì e non dire che per l'eutanasia. Non dire che per l'eutanasia, però non, per, sì, ho capito, perché ma non ha detto. Non te la fanno. Non ha detto imbroglia anche ma se non sei depresso. Ma non perché un medico ti deve curare. Ma come fate? Ma un medico giura che curerà le persone. Quello non è un medico, non è un medico quello, Mario, non è un medico. Quello che fa la perizia non è medico. No, quello sì, quello ti dice, allora, quello sei depresso cronico, quello porta la cartuccella e ti ammazzano, così funziona, diciamo la verità, più o meno, con delle difficoltà in più rispetto ai malati terminali. Che bella società. Bella società. Sono delle cose che possono succedere, non tutti decidono questo. Non è pieno di morti, non è pieno ancora con sto nazismo, ma non c'entra niente il nazismo. Il nazismo voleva creare la razza superiore, qui non c'è nessuna razza superiore. Che stiamo facendo, scusa? È proprio quello, è selezione di razza, no, è cultura dello scarto. No, che stiamo facendo cosa 24? Action T4 si chiama, era l'operazione razzista, si chiama Action T4. Sì, questo state facendo, questo è il meccanismo. Ma stiamo facendo, io sto facendo niente. Di razza superiore. Cioè, tu dici che Exit, questi qua fanno, sono nazisti. Exit sono nazisti. Mi meraviglio di te, guarda. Ti considero una persona molto intelligente. Questo paragone. Ma che c'entra? No. Della cultura dello no, scarto. Cui, a me non mi piace per questa cui. È quale scarto? Dello scarto. Ma Exit sono nazisti? Sono nazisti Exit? Io ho detto sono peggio, lo fanno a peggio dei nazisti. Peggio. Exit sono peggio dei nazisti. Vabbè. Beh, sentire questa cosa qui, se una persona davanti a uno che gli dice mi voglio ammazzare non ha un sussulto per dire cosa posso fare per aiutarti. Ma, solo dargli ma quello non è un medico, non è un medico. No, devo dire che la telefonata, siccome allora è evidente che siccome questo telefona, io forse mi sarei aspettato da questo di Exit, cioè, scusi, venga qui, parliamo. Vabbè, gli ha dato delle istruzioni su come fare, se non fate troppo le col medico, ma dai ragazzi, su. È un puro business, ma come fate a non ma che sia un business non c'è dubbio, poi qualcuno sarà mosso anche dall'ideale che uno può disporre del proprio corpo. Non c'è nessun ideale. Rimarrà un business fino a quando rimarrà una cosa che si può fare solo in Svizzera e in Olanda. Eliminare chi sta male, eliminare i sofferenti e tenere la razza superiore in vita. La razza superiore quale sera. Ciao, ciao Mario, ciao, ciao. Ciao, ciao. Yeah. Oggi vi racconto la triste storia di FP. FP è una persona realizzata, lavora per un'importantissima multinazionale tecnologica, è una persona intelligente, eppure FP non è felice, perché FP continua a mandarvi messaggi, ma voi non li trasmettete. E quando voi avete trasmesso il mio messaggio e non quelli che mi manda FP, FP è scoppiato in lacrime. FP ha bisogno di voi, vi prego Cruciani, io faccio un appello. Trasmettete i messaggi di FP. Grazie. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Sta zitto Cruciani, che sei una come la Leotta. Utilizza la mochina, ci fai il bagno nella mochina. Il bagno. Giuseppe, buon viaggio. Metterei te in una bella gabbia, caro Cruciani, poi ti farei un bel video, riderei come un pazzo e direi osservate gente, il nanetto che è convinto che è un giornalista. Sei proprio, ne ho visti stronzi, ma tu sei il numero uno, sacchetta. Ciao Crux, mi trovo a Cracovia in vacanza e sto pensando, meglio andare a puttane o andare ad Auschwitz? Beh, Davide ad Auschwitz è rimasto chiuso dentro, forse è più sicuro andare a Troia. Beh sì, diciamo di sì, però anche una visitina ad Auschwitz, ragazzi, innanzitutto quello che è successo a Davide fu un caso eccezionale. Esatto. E guarda che si possono fare le due cose insieme, cioè nella stessa giornata tu potresti andare ad Auschwitz in giornata a fare una bella visita, visitare il campo di concentramento, che è sempre una cosa molto istruttiva per quella, una bella visita, perché sì. Una bella visita per una cosa drammatica, sì. E per una cosa importante, se uno va là, no, magari e ha delle idee bizzarre, tipo puoi rinsavire, no, se guardi quelle cose lì, magari potesse servire a qualcuno. C'è, cioè, per esempio Mauro da Mantova potrebbe rinsavire, no. Signor Mauro da Mantova, tu dici no. Nemmeno con Auschwitz, nemmeno. Però voglio lanciare un sondaggio qui, voglio lanciare un grande sondaggio. Allora, siccome ho molte pressioni che mi vengono dagli ascoltatori, molte pressioni che vengono da fuori, molte pressioni che vengono da amici, da estimatori del signor Mauro da Mantova, ci sono anche questi, Parenzo, bisogna tenerne conto, ci sono estimatori del signor Mauro da Mantova, c'è anche chi non si fa il bidet non si pulisce dopo essere stato di corpo, quindi vabbè, che c'è, tu dici c'è di tutto nella vita, no? Non si pulisce con la carta igienica, per usare una metafora che ti può piacere. Ci sono tante persone, certo, ci sono anche quelle, ovviamente. Però io voglio lanciare qui un grande sondaggio, un grandissimo sondaggio. Tremo, tipo quelli il di sondaggio è questo. No, il sondaggio è questo. Volete voi ascoltatori della Zanzara, lo pubblicheremo sui nostri profili Facebook, io odio dire queste cose perché odio questa, tutto deve essere collegato, no? Facebook, Twitter, queste cose qui, odio questa cosa qua, cancellerei tutto, comunque va così, ormai il mondo va così e dobbiamo accettarlo per come va. Allora, volete voi il ritorno di Mauro da Mantova dentro l'arena della Zanzara? Sì o no? Io deciderò in base al vostro volere. Da qui, diciamo, a giovedì, no, diciamo, da qui a mercoledì. Giovedì mattina prendo atto dei risultati, e devo dire, terrò conto di questi risultati, ovviamente, se poi li vuole, se non vuole, che cazzo me ne frega. Dite quello che cazzo vi pare, ma a me Mauro da Mantova manca. Mio cugino, ad esempio, vedi come si dividono anche i miei amici. Mio cugino, vabbè, non diciamo il nome perché è un importante manager, dice voto no. Voto. Ad esempio, vabbè, votasse no, mentre andasse sui nostri social. Altro mio amico che si chiama Benedetto dice anch'io voglio Mauro da Mantova. Quindi vedi anche tra i miei amici, da gente comunque che ha studiato, gente che è molto. Però, cari amici, sì, no, assolutamente. Vedi, allora, ecco, ti dico una cosa: il mio cugino Davide, ti dico una Gabriele, cosa. Ecco, vabbè, insomma, dice voto ti no. Ti dico una cosa: quell'altro, Mauro sì. da Mantova diventa ispettore. Come si? Pensa di avere trovato la verità sul caso di Yara Gambirasio. No, questa è roba seria, veramente, non è possibile. Senti sta roba. Cioè, perché? Dov'è? Partiamo. De Benedetti? Ma come dov'è? Ora ti spiego cosa è successo con la Yara Gambirasio. Il centro sportivo dove andava ad allenarsi a livello agonistico la Yara Gambirasio doveva essere rifatto nuovo, più grande, più bello e anche più importante a livello nazionale. Il papà della Yara Gambirasio e qualcun altro si era opposto a farlo al centro commerciale del Mappello, ma lo volevano fare un po' distaccato in modo che respirassero aria pulita. Molto probabilmente hanno voluto punire questo geometro architetto, che è il papà della Yara Gambirasio, rapendogli la bambina, la figlia. La teoria di Mauro da Mantova. Aspetta, continua Parenzo, so che sei scioccato. Senti ancora. Quando cercavano la Yara Gambirasio, i poliziotti svizzeri avevano prestato due cani molecolari per cercare la Yara Gambirasio. I cani, facendone usare cose appartenute alla Yara, puntavano il Mappello. Il commissario cosa ha fatto? È andato dalla parte opposta. Nel fatto che il commissario vada dalla parte opposta di dove i cani molecolari indicavano, già vuol dire che c'è qualcosa che non torna, che cioè tu non volevi assolutamente trovare il colpevole. Il mistero si infittisce. No, ma ragazzi, ma non c'è nessun mistero, ma cosa dici? Aspetta. Cosa gli dai? Dove ha detto ste minchiate poi? Aspetta. No. Quando hanno preso Titrick lì, quello lì, quel marocchino lì, che era un'intercettazione telefonica, che diceva, ma io non volevo, lui sa tutto. Poi l'hanno ripiegato che hanno sbagliato tradurre tutte balle. Lui sa, ma non può parlare, perché altrimenti la polizia italiana gli fa la vendetta trasversale come hanno fatto con Fabrizio Corona, condannato a 14 anni per non aver ucciso nessuno. Quando invece Buzzi, condannato a 24 anni per aver ucciso il suo socio con 27 coltellati, ha fatto solo 6 mesi di carcere. Questo è lo Stato merdoso italiano, che è comandato dalle lobby ebraiche. Ecco questo. Questo è stupendo. Fikrit, il marocchino che fu preso a un certo punto su una nave e poi scagionato, sa tutto di Yara Gambirasio, secondo Mauro da Mantova. Continua. Ma quella di Bossetti è eclatante. Bossetti non c'entra un cazzo. Si erano attaccati al coso, al furgone. Ma sono tutti uguali i furgoni. È la stessa stoffa. Ma brutti deficienti. Per forza è la stessa stoffa. Ne avranno fatti 150.000. È tutti la stessa stoffa. Coglione. Faccio il carrozziere, lo so. E in conclusione... è tutta una balla. Qui c'è la mala giustizia che ha preso in mano il potere. Questa è l'Italia di merda. Cruciani non sa un cazzo di questo. Se lui vede nello storico scopre tutto quello che ho detto io, che è tutta realtà, ma lui non sa un cazzo, sto coglione. Miserabile, io se vengo lì, bastano 30 secondi che ti polverizzo con il mio genio. Pezzo di merda! Vabbè, chi l'ha ammazzata però non si è capito, Parenzo, ancora. Sono invecchiati entrambi, sai, sia Donato da Varese che Mauro da Mantova. Sono persone invecchiate. Invecchiate anche piuttosto male, oso dire. Fabrizio da Roma, dire. Dai, Fabrizio. E dai. Per loro purtroppo non c'è stata la fuga di cervelli. Pronto. Fabrizio Roma, ecco. Vai. Dimmi. Buonasera, regà. Dimmi. Allora. Senti. Niente, volevo solo intervenire di una cosa su cui i due ragazzi de Follonica del Todis. Allora, non potevano fare quello che hanno fatto solo perché non sono, diciamo, operatori di pubblica sicurezza o carabinieri. Però tecnicamente non c'è reato. Perché? Perché siccome non sono classificati come persone o esseri umani. Ma chi? Questi, i rom, i zingari, chiamali come te pare. Ma, cioè, chi, ma sono semplicemente combustibile per caldaie. Tecnicamente non è reato. È come se tu hai messo da parte del però, combustibile. Scusami, io non però, so abbiamo... neanche più come però, cioè, scusami, Fabrizio, cosa tu sei serio o stai facendo roba? Così per cazzeggiare? No, io sono serissimo. Non lo potevano fare perché ovviamente loro non sono né polizia. Cioè, secondo te i rom non sono umani? Non sono umani? Non sono combustibili, sono classificati come combustibile per caldaie. Io non so insomma, che livello di civiltà siamo, che però, di civiltà, non che stai disastro parlando, siamo arrivati. Ragazzi, non è, cioè, tu stai dicendo una cosa così bruciati, per esagerare. Non io non so come vivi, persone simili li fai addormentare e poi dopo li utilizzi negli anni 30 persone simili erano quelle che aiutavano a mettere gli ebrei nei vagoni, persone simili negli anni 30. A me mi stai simpatico, te voglio bene e te seguo, però non è che possiamo pensare tutti allo stesso modo. Negli no? anni 30, sì, vedi, con la lucida follia, cioè la voce anche della famosa banalità del male e questa roba qua. Ma Fabrizio, dai, non puoi dire, non puoi dire. Diventare normali, lavoro, ma non c'entra niente, è la banalità del male, esattamente come veniva chiamata la banalità del male. Cioè con un'apparente lucidità cioè, tu li sta dicendo una cosa terribile. Con un'apparente sì, ma non così tranquillità. A ciao Sabrina, ma non così Sabrina? A poco, cioè, capito? Perché dopo la banalità del male. Paga e spese per metterli via, per seppellirli, cioè. Vabbè, ma allora, ho capito, Fabrizio. Però valorizziamoli. Come ha detto giustamente l'altra sera l'altro ascoltatore. Fabrizio, ma tu che fai? Ma tu che sei il camionista, il solito camionista? Ma io sono il solito Fabrizio NCC di Roma, dai, sono quello NCC, che sarà innamorato dalla puttana. Ah, la cinese quella. Dici, la cinese. Esatto, la mitica brava, cinese. Ma poi adesso mi sono ricordato, un po' di tempo che non chiamavi. Ma io non ho capito, sì, ma sta cinese poi alla fine? Non c'è più. Non c'è più la cinese, sparita no, la cinese. No, poi sinceramente ho anche un po' cambiato, diciamo, genere, bravo, esatto, vedi. Vedi perché tu mi piaci? Perché se capiamo al volo anche solo beh, per telefono. Ma esageriamo, insomma, amico mio. Parlate di puttane. No, mi piaci nel senso. Vabbè, stiamo a parlare di puttane, ho capito, Davide, potevamo pure parlare, non so, ma io non ho capito, hai cambiato genere che non vai più da puttana cinese, da chi vai? No, adesso ho conosciuto una sudamericana, una colombiana, una cosa. C'ha una pelle vellutata come una pesca, proprio. Ma una cosa spettacolare. Ma dove sta puttana? E anche lì do ragione a Sgarbi quando dice che il profumo c'ha la sua parte nel sesso. Ma io non ho capito una cosa, ma dove vai adesso da questa qua? Sta a Monteverde, sta sempre qui in zona da me, io da Monteverde. Io sono qui vicino all'Eur, sì, vicino perché col fatto che faccio l'NCC vado sì. spesso all'aeroporto, quindi mi conviene, capito? Sì, ma non ho capito che tariffe di questa South American? Che gli chiedi? Chi se no, ne frega? 50 euro, da, sì, da, scusa, possiamo rispondere a Davide, 50 euro. 50 euro la colombiana, ma appartamento suo e tutto? Appartamento, sì, con preservativo ovviamente. Vabbè, ma terzo protetto, normale, beh, quello beh, che cazzo è normale. Vedi che sono propaganda lucido, David. O vedi che so più che lucido. No, vabbè, no, ma lei usa lo stesso, appunto, lei usa diciamo, lo stesso tono per perché... parlare di questo e per parlare dei rom, e questo che è agghiacciante. Vabbè, allora, aspetta David, se io però uno dei prossimi giorni vogliamo fare questa qua, esprimiamo lo stesso concetto strillando a Mari e Monti, ma avresti preso per pazzo. Siccome non è no, mi preoccupa ancora di più. Hai delle cose ancora più gravi. Ancora di più. Ah, certo. Bene, regà. Ma io non ho capito una cosa, ma questa qua esercita in casa questa sudamericana, questa colombiana? Sì. In casa, no? Ma tu c'hai il telefonino e vai. Sì, però di questa non tu potevo, mi dispiace. No, vabbè, ho capito. Vabbè, dai, su. Ho capito. Ma no, di questa non mi sono innamorato, è solo un rapporto professionale. Da cinese ti eri innamorato invece? Sì, ma anche poi perché tra l'altro questo fatto dei mignotti dovrebbero istituire una specie di certificato medico, perché sì, siccome sono benefattori del sesso, sì, perché tu quando esci dall'asta sei sicuramente più rilassato. Beh, se me potessero passare almeno i preservativi, che ne so, invece di pagarli 8 euro li pago 3 e mezzo, sì, per dire. Sì, questo è giusto, però Parenzo su queste cose per è abbastanza, dire, no, è molto lucido Fabrizio, perché no? È una cosa, sarà ma lucido, sì, sui ragazzi, ma certo. Cioè, ma vanno, io una sono cosa, per la distribuzione, diciamo, anche terapeutica, ma io sono per la distribuzione gratis dei preservativi, sì, anche di fronte alle scuole, di fronte alle parrocchie. Lì dietro c'è gente che lavora, va pagata, è giusto pagarli, no? Su questo siamo d'accordo, si possono abbassare. No, lo Stato dovrebbe pagarli le farmacie. Va abbassata l'IVA, esatto, sì, sicuramente, quello sicuramente. Vabbè, comunque, abbiamo capito che Fabrizio ha cambiato. Ti Dubiotto a casa. Sì, Dubiotto. C'è una all'euro l'euro che ti chiede 200 euro, no? Quando vabbè, ho detto non è che facciamo euro, il tariffario di tutte le prostitute di Roma. No, infatti, David, non è corretto politicamente, più che altro è scorretto a livello di Fabrizio da Roma, breaking news, Fabrizio di Roma ha cambiato prostituta, da una, sì, cinese sono passato profumo alla colombiana. Mamma mia, guarda, è splendida, te giuro. Vabbè, amico, cioè, solo l'odore, guarda. Ma non che tu una fidanzata non ce l'hai, cioè non cerchi una donna normale, una fidanzata? No, io no, per il momento no, io preferisci le mignotte. Due volte. Per adesso io sto da solo, non faccio peccato, non vedo perché non ma ci no, devo perché andare. Perché preferisci? No, ma me lo dici. Sì, basta, sì, che non siano sfruttate queste ragazze. Quando sarà più là smetterò, mi troverò una compagna e diciamo metterò la un po' più a posto. Come ma scusa, hai salutato una Sabrina prima che sei andata alla mignotta da lei, no? No, anzi, un'amica mia, c'ha un culo di culo, c'ha 52 anni, c'ha due figli, c'ha due chiappe, amore mio. Beh, speriamo che i figli, speriamo che i figli ascoltino. Speriamo che l'amico senta, guardi. Speriamo che l'amico senta, guardi. Ciao Fabrizio, ciao, ciao, ciao ragazzi. I'm a real wild one. Wild one. David. David! Porca puttana, è andato giù. Devo dirgli una cosa. E vabbè. Semplicissimo. Se volete insultare Mauro Mantova che è passato a Radio Padania, o volete dire in quali piazzole di Sosta ci sono i gay, o se vi garba volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete parlare dei vostri glory hole, o volete dire come si fa a scopare senza spargere il seme, o se vi garba volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 71 71 701. Siamo al super top. Allora Berlusconi, caro Parenzo, Berlusconi. Questo è sempre quello che aggiorna, no? Sì. Di settimana ma pensavo in settimana, che volessi maramaldeggiare, ecco, su Cortina, invece ti sei fermato su Cortina. No, cosa ti vuoi sei, che dica? Ti vai sei bloccato, ospite ti in una bellissima rassegna, bellissima rassegna. Vabbè, sono stato due giorni a Cortina, qual è, ecco, il problema? Pagato, certo, assolutamente pagato. Da questi non signori pagato simpatici. Per gratis, no, però pagato il soggiorno. Sì, certo, il soggiorno in questo grandissimo albergo, eccetera. Sì, ospite, sì, di queste, sì, cose, a pontificare sul nulla. Sì, sul nulla, sul nulla, effettivamente. Però meraviglioso, va bene. Però che non ti azzardi mai più, mai più, a perculare. Hai dormito in quell'albergo meraviglioso. Sì, che è stanza uno, molto grande, devo dire. Sì, si stanza, uno degli con vista sulla sulle tofane, no, perché era, no, dietro. No, diciamo, e dall'altra parte, anche, sul faloia. Sul cristallo. Sul cristallo, bravo, sul cristallo. E va bene, benissimo, figurati, sono un appassionato, va bene, ottimo. Ma? Che non sia mai che da, sì, oggi venga io perculato quando vado pagando a farmi tre giorni. Ma infatti tre io vado solamente se ho ospitato, ecco, altrimenti non deciderei mai di andarci di mia sponte, come sai, no? Di mia sponte. Tu, allora, sì, perché sei anche, ragazzi, un tirchio pazzesco. No, sono attento, diciamo, no, tirchio, attento, sono attento. Allora, ragazzi, Berlusconi, però parliamo bene di Berlusconi perché il caso esiste. Il doppio euro, Parenzo, che ne pensi tu? Adesso non mi dire subito cose terribili. Mi sembra una follia assoluta. Allora, Berlusconi, una roba Berlusconi proprio che non esiste. Dice di fare un euro per i commerci internazionali e una moneta interna. Senti. Riprenderci parte della sovranità monetaria, stampando una nuova, emettendo in circolazione una nuova moneta, una nuova lira. Questo significherebbe conservare l'euro per tutto ciò che riguarda importazioni ed esportazioni e con la moneta interna provvedere anche a tutti i pagamenti dello Stato per aiutare chi è rimasto indietro. non si capisce un cazzo. La cosa incredibile è che non si capisce un cazzo. Una lira per chi è indietro e un euro per... Non si capisce un cazzo, dai Berlusconi, io ti voglio bene, però non si capisce un cazzo. L'altra cosa che dice, senti questa teoria su chi entra nelle case per rubare i frigoriferi, una cosa incredibile, senti. Mi diceva un generale dei carabinieri qualche giorno fa che quello che colpisce è che nei furti, nelle abitazioni, la prima cosa che appare è lo svaligiamento del frigorifero di casa. Prima di andare a cercare monili, soldi o altro, chi entra in casa per rubare ha fame e si rivolge a tutto ciò che esiste nel frigorifero. Bah, ragazzi, dai, su. Cioè, ma ti rendi conto che dice Berlusconi? Sono abbastanza basito. Cioè, un generale dei carabinieri gli avrebbe detto. Ma che dove l'ha fatta questa intervista? Rete Italia, non so. Cioè, che Canale Italia. Canale Italia. È quella, certo, dove ha proposto Zaia come premier, no? Come leader del notizia, centro-destra. Canale Italia, ottimo. Conosco bene la TV del Veneto. Sì, parlo, sì, assolutamente. Allora, che cosa ha fatto? Cosa dice Berlusconi? Che un generale dei carabinieri gli avrebbe riferito che nei furti in casa. E molte persone non vanno a prendere i gioielli, i Rolex, gli orologi, quello che è, ma vanno nel frigo. Insomma, ragazzi, secondo me ha capito male. Cioè, alla fine svaligiano anche il frigo così. Questo mio figlio piccolo, quando c'ha fame, svaligia il frigo. Questo è così. Vabbè, comunque. Ragazzi, dai, su. Senti che succede nel programma della Isoardi. Interviene un disturbatore telefonico. Sì, vista. Vai, sentiamo però, sentiamo. State chiamando il nostro avvocato Angelo Greco per parlare appunto di cartelle Equitalia da rottamare o rottamate. Sentiamo. Cartelle che si sono ricevute, andare a verificare quali di queste sono davvero conservate, quindi nel avvocato, cassetto. Sì. Avvocato? Sì. Senta, io sono Michele Caruso, vaffanculo, buffoni! Allora, rientriamo, purtroppo esistono anche queste persone. Io l'avrei tenuto in onda. Ce l'avrei tenuto in linea, beh, stupendo, l'avrei tenuto in linea. Michele Caruso, che vuoi? Sei un deficiente, vieni a romperci i coglioni a noi, no? Isoardi, forza, Impara da Salvini, impara da signor Salvini. Doveva battagliare con questo. Ha gestito in modo straordinario, invece mi pare questo imprevisto televisivo. Andrea da Napoli, vai Andrea, vai. In modo impeccabile. Andrea. Buonasera Parenzo e ciao Giuseppe. Vai, dimmi. Allora sì, volevo intervenire rispetto al sondaggio che hai lanciato sulla permanenza o meno di Mauro da Mantova. Dimmi. Interviene sui sondaggi. Senti, io volevo dare una terza opzione. Qual è? Dimmi. Ovvero di aggiungere fuori dei coglioni anche Donato da Varese e tutti gli altri pezzi. No, ragazzi, è inaccettabile questa cosa qua. È inaccettabile, io non sono d'accordo, per cui cioè, poi tu puoi esprimere tutto quello che vuoi. No, cioè, perché anche proprio da ultimo, quel rincoglionito che ha chiamato poco fa, che parlava di combustibile e altre follie, quello andrebbe subito messo al bando anche lui. Sì, al bando, e poi fa una trasmissione con te che ci racconti fuori Mauro da Mantova, e poi che ci devi dire oltre fuori dai coglioni Mauro da Mantova? No, poi si può... Cosa ci racconti, di Hegel? Di che cosa ci parli? Preferisco sentire Parenzo su Zagrebeschi che tu sugli virgoli di merda delle mutande. Perché tu non hai mai fatto la sgommata di merda sulle mutande? Non ti è mai accaduto? Ti è accaduto o no di avere le mutande piene di merda ogni tanto e devi correre in bagno? Sì o no? Io non arrivo a avere il culo rancido pieno di merda, quindi. Ma come no? Sì, che... va bene, no, è arrivato il si perfettino. Si tratta di sostituire famosi, Donato da Varese con Emanuele Severino, sì, esempio, un i famosi filosofo. Tarzanelli, ce li hai mai avuti tu, i Tarzanelli? Schifo, No, non lo, io no, ma tu penso di sì o no? Assolutamente sì, i Tarzanellini, certo, assolutamente. Beh, questa è una cosa di cui vantarsi. Tu invece no, lui i Tarzanelli non ce l'ha mai avuti, i Tarzanelli al culo. Ma ammesso che abbia avuto qualche e allora raccontalo, perché dovrei raccontarlo a tutti. Mamma mia, che Andrea, conversazione. Raccontalo. Ma come dice Dario Vergassola, ma sempre mentre si mangia, mi sta scrivendo. Ma che schifo, mi scrive Vergassola, sempre mentre si mangia. Sì, ma intanto gli piace pure a Vergassola questa discussione. Se gli ciao piace. Andrea, ciao. Vai tu fuori dai coglioni, no Mauro da Mantova. Apparisci in setto. Tu vai fuori dai coglioni. Buono. Sempre torniamo a parlare però della vicenda di DJ Fabo, perché abbiamo detto che c'è un'altra signora che si chiama... Cioè vedi questa bellissima frase di Emanuele Severino, del filosofo Severino, che dice... Morto, senti no, che mi bella sembra, che... morto mi sembra. No, è vivissimo. È vivissimo Severino. No, scusa, io non mi ho detto È del 29, ma che è morto? Morto, vabbè. il suo pensiero, vabbè, dai, è stato anche definito parmedinismo. No, ma dai, senti che bello questo. Dimmi. Si tratta di capire che la costruzione e la distruzione, sì, hanno la stessa anima. Cioè, senti che potenza. Cioè, la costruzione e la distruzione, sì, hanno la stessa anima. Ma mi sembra, ragazzi, una banalità oggettivamente. Questa avvocato, mi sembra... sì. Avvocato, sì. Senta, io sono Michele Caruso, vaffanculo, buffoni! Allora... Allora, ripeto, Francesca Immacolata Ciauchi, detta anche la papessa, ha detto: DJ Fabio è un vigliacco, non un eroe. Gli eroi sono quelli che restano, quelli che sperano, quelli che nonostante tutto vanno avanti senza mollare mai. Mai. Chiamiamo la papessa. Pronto? Come andiamo, papessa? Bene, benissimo. Tu come stai? Beh, non c'è male. Quando ti sento... Non possono parlare, perché appena parlano vedi che succede a parlare come diceva tu. Perché hai detto che è un vigliacco? Spiegami. Ho detto che è un vigliacco perché ci vuole molto coraggio per sostenere quello che la vita ci propone, ci vuole molto meno coraggio per suicidarsi. Io non accetterò mai la cultura dello scalzo, io non accetterò mai la cultura che se stai bene hai diritto di vivere, se stai male hai diritto di morire. Assolutamente no, cioè, la vita è quella che viene. D'accordo, cioè tu dici che l'eroismo sta nel soffrire e non nell'andare nel in Svizzera, vivere soffrendo e non... L'eroismo sta nell'accettare quello che succede, nel trasformare la propria esistenza in qualcosa di buono. Sapete quante persone ho portato a Lourdes sul treno bianco che stavano anche molto peggio di DJ Fabbo? Eppure nessuno di loro pensava a morire. Io sono sicura che DJ Fabbo era un dono per le persone a cui avrebbe potuto parlare, per la sua famiglia. Dunque ha fatto male, ma ha fatto male. Ma non solo ha fatto male, è un cattivo esempio. Assolutamente, se passasse l'idea che se siamo malati possiamo morire, passerà anche l'idea che se siamo depressi possiamo morire, che se siamo stanchi di vivere possiamo morire. Ma non lo decide la persona, scusa, la persona sarà libera di disporre del proprio corpo? No. Perché a chi appartiene? L'articolo 5 del diritto civile, il nostro ordinamento lo vieta. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati. Per questo è vietato quello che ha fatto il Fabio in Italia. Per questo non c'è la legge dell'eutanasia in Italia. Cioè, non ho capito. Secondo te chi l'ha aiutato a morire va incriminato? In Svizzera, ovviamente no, perché sennò non l'avrebbe fatto. No, in Svizzera è legale. Cappato, Marco Cappato è un assassino. No, non è un assassino. Non è un assassino perché poi chiaramente sarebbe da stupidi generalizzare se fosse. Io semplicemente dico a questo Stato, allo Stato dove io vivo, dove mio figlio vivrà, attenzione a far passare leggi come quelle che ci sono in Svizzera. Quelli che hanno accompagnato DJ Fabbo a morire, secondo te sono complici di qualcosa oppure no? Cioè, questo voglio capire da te. Non credo che siano dei complici, perché comunque la scelta è stata una scelta assolutamente libera. Quindi però tu pensi che sia un vigliacco? Ma come fai a giudicare uno che soffre e che decide di porre fine alle sue sofferenze un vigliacco? È quello che io non mi capacito. Cioè, quando tu dici è un porre fine alle proprie sofferenze. Allora, che cosa io intendo per vigliacco? Io non lo intendo in termini dispregiativo. Io lo intendo come modo di non avere avuto il coraggio di affrontare quello che la vita gli stava dando. Ho capito, ma soffriva come un cane e uno era un vegetale. Tu capisci che ero totalmente un vegetale, cioè parlava attraverso E migliaia di persone sono in quel modo e non vogliono morire, cercano di fare qualcosa. Ma lui sì voleva morire, però. Lui voleva morire. Vabbè, ma secondo te il nostro corpo non appartiene a noi? Cioè, secondo te il corpo non appartiene a chi? A Dio? A chi appartiene? Ricordati sempre che io sono cristiana, quindi secondo te per me a chi appartiene? Cioè, non appartiene a noi, la nostra vita? Io non ho fatto, ascoltami, io ho avuto il distacco della placenta, quindi la possibilità che mio figlio fosse malato era... Io non ho mai fatto uno screening prenatale sulla vita di mio figlio, perché quella vita era un dono per me, un dono di Dio, comunque sarebbe andata, io l'avrei accettato. Quindi per me, da cattolica, da cristiana, è impensabile dover... Cioè, perché il nostro corpo, la nostra vita non ci appartiene? Per me assolutamente no. Quando ci facciamo del male, tradiamo il disegno che Dio ha avuto per noi. Quando ci distruggiamo, quando ci droghiamo, quando non ci rispettiamo. Secondo te è stato un cattivo esempio? Non è l'esempio che darei a mio figlio. Se mio figlio rimanesse a letto, come dice Fabio, io cercherei di trovare un modo per fargli apprezzare anche quella di vita. E questo è quello che gli devo dire. Cioè, doveva apprezzare DJ Fabio, doveva apprezzare anche questo tipo di vita. Doveva lottare, perché sicuramente nella sua vita c'era un messaggio per le persone, che aveva intorno. C'era un messaggio di speranza per le persone che aveva intorno. Vabbè. Ciao Francesca, ciao Papes. Ciao. Ciao cara. Ciao. I met a man who bought up land wherever his feet would tread. He asked me to El Paso, said I could stay on his spread. He has horses and cows, tractors and plows, and all kinds of lots of birds. But how can I get to Texas when my wheels won't turn? Vabbè, è andata così pure la Ciauchi, ragazzi. La vita non appartiene a noi. Una sciocchezza. Intanto scrive Marco Cappato da Twitter dice: sto tornando a Milano, dove domani andrò a raccontare alle forze dell'ordine come ho aiutato Fabo. Vabbè, a costituirsi questa cosa dell'autodenuncia. Fa una battaglia politica, certamente, battaglia politica. Vabbè, a differenza d'accordo. Dei deputati che scappano dal carcere. Ma l'hanno fatta, scappano dal carcere condannati. Lui, non condannato, è politico per bene, va a denunciarsi per un atto civile di disobbedienza che ha compiuto. Pensa alla differenza che c'è di vabbè, stile. Vabbè, adesso non esaltare questa cosa, anche questa è propaganda politica, dai. Ma quale propaganda? C'è modo di fare politica, c'è un modo Armando, di fare politica come lui. Armando provincia di Frosinone, dai, Armando, vai. Armando. Ciao da Ceccano, per la precisione. Vai, dimmi. Lorenzo, una persona depressa è una persona che non è libera di decidere, perché è una persona malata. Certo, certamente. E quindi non è libera allora, di decidere. Stiamo non discutendo di un'altra, stiamo morire, discutendo di un'altra cosa. Di stiamo discutendo di un'altra cosa. È una persona che l'accompagna è complice. Stiamo parlando. Non era il caso depressione. Di DJ Fabo. Esatto. Non era il caso di Fabo. Mica era depresso, amico mio. Ha avuto un incidente, era rimasto praticamente un vegetale. No, io parlavo. Vabbè, pure di depressione si è parlato. Ma sì, certo. Poi non era il caso. Si è parlato dopo anche di depressione. Sì, sì. Allora. E questo qua volevo dire, basta. Vabbè, allora dunque sei d'accordo con Adinolfi? Per la prima volta nella mia vita, sì. Cioè, tu proibiresti l'eutanasia? Pensi che sia peggio di Hitler? Per chi non ha una malattia organica, perché ha una malattia organica, certamente sono a favore. Non sei d'accordo? Di che stai parlando? No, Adinolfi ha parlato per un attimo. Anche Paolo da Milano, vai. Sì, Paolo da Milano, vai, Paolo. Pronto. Volevo parlare anch'io dell'eutanasia e del suicidio assistito. Vai, dimmi, Paolo, dimmi. Nessuna figo. Precedente intervento hanno detto che c'è la vita è molto più importante. Secondo me la vita è un dono di Dio. E allora? Noi non abbiamo tutto questo potere. Se uno pensa che quella non sia più vita, ragazzi, ma uno dice la vita, ma che vita è quella? Ma l'avete visto? Ma poi o no? Non decide lei, ma non decido io. Ce l'ha data Dio. E lui ma non chi ce l'ha data? Ma che ne sai? Ma questo secondo ma una certa. Allora uno che sta male perché gli è morto il marito, una vedova deve suicidarsi. Ma chi l'ha detto? Se decide che la vita diventa insopportabile e ci sono le carte che certificano una cosa, certamente sì. Ma c'è il diritto al suicidio, sì o no? Per me sì, c'è il diritto al suicidio. Diritto al suicidio. No, non c'è assolutamente. Ma è no. Purtroppo a parte che parla di casi estremi, esatto. Di casi estremi, non è che si va del I diritto a morire così. Eutanasia. A parte che il diritto al suicidio sì o no non è che cambia molto, quando uno è morto poi non è che viene incriminato una per volta qualcosa. Una volta era così nel codice penale. Sì, vabbè, ho capito. Quando ti suicidavi era pure penale, se non morivi ti indagavano pure. Sì, dai. Davvero? No, poi questo gli Andrea dà l'idea Monza, del... vai Paolo, che cosa vuoi dire ancora? Dimmi. No, penso che le religioni vietano il suicidio. Chiaramente uno che vuole uccidersi si uccide e basta, però insomma forse è un deterrente. Vabbè, ciao Andrea da Monza, dai. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Avevo una riflessione sulle case chiuse, andando a vedere dopo il servizio di Roma alle Iene, se andate a vedere sul sito dell'Andos i circoli che sono sotto l'Andos, a Milano ce ne sono un sacco, ad esempio c'è il... Bangalow, andate sul sito. Bangalow, sì, me ne hanno parlato del Bangalow, un posto incredibile. Andate a vedere di tutti i colori sito. Che succedono. Bangalow. Esattamente. Bangalow. Se vai sul sito, dark room, gente tenuta col guinzaglio, gente tenuta con le catene. Glory Hall, gente tenuta con il guinzaglio per terra. Gente che siete professionisti, manager, eccetera, che si mettono probabilmente anche iscritti a Confindustria. Col guinzaglio per terra. Ti giuro. Sì, col guinzaglio per terra si fanno sculacciare, succede qualsiasi cosa. Sì, vabbè, si fanno incappettare. Non sto dicendo che è normale. Fai quello che vuoi, vai a Cortina, vai, fatti mettere al guinzaglio. Non far passare tutto per il normale. Il Bangalow va a Milano, amici miei. Andrea, tu ci vai? No, ci mancherebbe. Ho quattro figli. Ma che cazzo c'è? È pieno di gente sposata con quattro figli che si fa incappettare pure mamma mia, fissato. Ma sei quattro figli. Se tu vai sul sito del Bangalow, non c'è nessun filtro. Se allora? Vai sui siti delle escort, ti avvisano. Questo sito ha. Ma filtro perché cosa ci dovrebbe essere? Spiegami, non ho capito. Ti devono dire se vuoi anche vedere. Di che cosa ti scandalizzi? Non ho capito, quello è un locale. Cosa di... No, non per il locale. Tu vai sul sito. A me mi interessa solo, c'è prostituzione, sì o no? Sicuramente sì. Ma che ne sai tu? Sì. Sicuramente sì. Ma cos'è che ti sconvolge? Non ho capito cosa ti sconvolge. No, a me non sconvolge. Dico, siccome in Italia sono vietate le case chiuse, no? Sì, sì. Tu, beh, sì, hai ragione su questo. Ma allora, queste non sono case chiuse, gente dov'è che va senza pagare, pagando solo l'ingresso in teoria, e si va a divertire in un modo che a te non piacerà, ma ad altri piace. Ma che cosa vuoi proibire, vabbè, questa roba qua? È lunedì, è solo lunedì, fatti mettere il guinzaglio anche di lunedì, dai, fai quello che vuoi. Ragazzi, me ne devo andare, ce ne dobbiamo andare, ciao. Al guinzaglio devi andare. Grazie guinzaglio. Roberto D'Agostino, no, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. Libera la voglia di fare.